radio della Conferenza. Signor Pippo Franco, che è amico di Scilipoti, ricordiamolo tutte le volte. Ricordiamolo tutto, anzi, uno dei sostenitori dell'agopuntura e dell'olismo di Scilipoti. Questo, diciamo, dice tutto sull'olismo. Comunque, 800 24 0024, questa è la Zanzara, l'avete capito. Ha parlato Berlusconi a studio aperto. A studio aperto, a casa sua praticamente. Sì, a casa sua. Si trova meglio a casa sua, uno si trova sempre meglio a casa propria, no? Vabbè, non è che è uno scandalo adesso parlare a studio aperto. Ho fatto un'intervista a studio aperto. Mi piace moltissimo. Bravi quelli di studio aperto. Sempre studio aperto. Non deve essere stato difficilissimo raggiungere per il signor Toti. Raggiungere Pesete Cottino. Però comunque bravi lo stesso. E Berlusconi dice: la manovra adesso è più equa, perché mi hanno tolto la musica, non lo capisco. Dov'è la manovra è più equa. Dov'è la notizia? Comunque. Sono molto molto soddisfatto, perché la manovra è molto migliorata senza modificare i saldi, e io credo che il fatto di avere sempre lavorato in questi giorni di agosto senza fare praticamente ferie ci abbiano portato al risultato di rendere la manovra più equa, più assolutamente sostenibile. Più equa e più sostenibile, vabbè, questo lo vedremo, naturalmente questo fa parte delle valutazioni di una parte e dell'altra. Poi dice una cosa: abbiamo tagliato drasticamente i costi della politica. Questo è un po' misterioso. No, non abbiamo visto. No, soprattutto perché ci sono delle promesse di fare modifiche costituzionali. Quando uno dice faremo la riforma della Costituzione, campagalle, che l'erba cresce, amica mia. Sentiamo questa cosa qui: tagliato drasticamente i costi della politica. Voglio ricordare che questa manovra, per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, ha drasticamente ridotto i costi della politica, tagliando moltissime poltrone. Abbiamo inoltre deciso di abrogare tutte le province e di dimezzare i parlamentari. Beh, sì, appunto. Quando? Punto di domanda. Però questo, come dire, no? Dipende poi dalla volontà sia della maggioranza che dell'opposizione. Addirittura Berlusconi dice punto a un taglio di più della metà dei parlamentari, cioè non solamente la metà. Più della metà. Quanto, una volta ti ricordi che diceva Berlusconi? Una volta disse: ma in realtà il Parlamento basterebbe che votassero i capigruppo. Ah, sì. No? Comunque, sentiamo ancora Berlusconi. Noi potremmo approvare la abolizione della provincia e la riduzione del numero dei parlamentari, anzi io le dirò che ho puntato e punto a un risultato più che dimezzato, a 300 componenti per la Camera dei Deputati e a 150 per il Senato. Devo dire, sarebbe buono, 300 e 150 fanno 450. Vaste programmi, no? Come diceva. Vaste tu che devo restare cose. No, non buttarti così. Va bene, un'ultima cosa prima di presentarvi alcuni ospiti che sono qui. Beh, ospiti di primissima linea, Da Vedrò, in diretta da Vedrò. Siamo in diretta sempre da Vedrò, non l'avevo detto. Vedrò, Trento, l'associazione di Ricoletta. Sì, diciamolo sempre. Camusso se la prende con i giornalisti, che dice abolita la tassa di... con alcuni giornalisti hanno abolito la tassa di solidarietà. Camusso, leader della CGIL, che ha proclamato lo sciopero secondo me più assurdo del mondo, ma comunque gioia per lo scampato pericolo di alcuni giornalisti e di altri, dei professionisti, non so, sentiamo. Sarcastica. Trovato molti che giuiscono che è stato abolito il contributo di solidarietà. Ho la sensazione, anche pensando a qualche direttore di giornale o di telegiornale, che si denunci grande soddisfazione perché si è scampato pericolo. Ma dal punto di vista dell'equità per questo paese si è fatto un ennesimo torto. Non è strano che io sia non abbia le stesse posizioni della Camusso. No, questo, come dire. No, però io oltre a avere definito questa tassa di solidarietà, se no la Camusso si preoccupa, perché se tutti ci sono d'accordo con la Camusso, è una volta che la signora Camusso giustamente no, però io oltre a averlo definito una rapina sin dall'inizio, cioè a me se mi devono rapinare è meglio che me lo dicano, non è che dico tasse. Poi non è, secondo me c'è un discorso, non è assurdo e sbagliato lamentarsi perché ti prendono i soldi, cioè non è una cosa così strana, cioè io sono contento perché non mi prenderanno i soldi dalla busta paga e sono contento per questo, oltre a pensare che fosse una cosa sbagliata aumentare le tasse per chi lavora e non una patrimoniale eccetera eccetera, penso che sia normale che uno è contento se non ti tolgono i soldi, ma anche se è un direttore di un giornale. E alcune battaglie non venivano fatte solamente perché toglievano a Belpietro per esempio dei soldi in più, venivano fatte in virtù di principi che sono più o meno condivisibili. Io in questi giorni ho visto due persone qui a Vedrò che erano sempre insieme, sì. No, ma è incredibile perché erano veramente sempre insieme, sono sì. Inseparabili. Ho provato a salutare dando un bacetto sulla guancia, hai dato un bacio sulla guancia? Sulla guancia, dato. Sulla guancia. A Nunzia De Girolamo. Buonasera. Deputato del PDL e mi sono guardato intorno però perché avevi paura di trovare chi? No, hai visto mai c'è un bacio sulla guancia? Sì, vabbè, ma sai, uomo del sud, signor Boccia. Buonasera. Buonasera. La coppia politica. Ma sì, questa ne abbiamo parlato sempre. Nella coppia PD, PDL, tutto già si sa. Cioè, si sa già tutto. Già, noto. No. Però c'è averli. C'è una curiosità che tu ti vuoi togliere. Sì, però no, io lo so. Cioè, averli qui insieme, no? Belli, giovani. Ma già hanno, dai nostri amici, Isabelli Fioretti e l'altro, come si chiama? Lauro. Hanno già dato da questo punto di vista. Quindi noi vorremmo andare molto oltre. Ma non sapete che bello avere voi due di fronte. Perché come siamo? È lui che canta chi sembra il Pierino del 2011. Però, non mi far provare questa. No, però sono belli che si tengono anche per mano. Sì. Beh, è normale, no, sono fidanzati. Perché devono due fidanzati che fanno, non si tengono per mano. È bellissimo. Questo è un privilegio che hanno pochi, quello di avervi di fronte. Non abbiamo le telecamere, quindi non possiamo dividere, diciamo, questo privilegio con tutti i radioascoltatori. Adesso non la portate su di noi, però non vi racconteremo noi. Anche voi siete una bella coppia di fatto. Noi siamo una coppia di fatto. Non condividiamo la sesta stanza. Però prima ecco, prima di arrivare proprio alla politica, io e Cruciani dormiamo in due camere separate. Voi avete preso una camera unica qui a Vetro. Oppure siete con la solita pantomima? La solita cosa. Voleva fare questa domanda. La solita cosa borghese, perché gli ho detto, prendono le due stanze separate, divise. Scusi, Parenzo, lei è fidanzato? È sposato? Sì, così dico. Sì, certo, sposato. Sì. Quando... una bambina di 4 anni, peraltro. Ah, okay, sì. Sposato. Sì. Vabbè, quando va in vacanza. Sì. Prende una stanza diversa da sua moglie? No, prende la stanza. Ma infatti, non che se uno dice di essere clamoroso, Boccia due punti, dormo in una stessa stanza. Clamoroso, da vedrò. Mentre il paese parla della riforma, delle pensioni, la Camusso, Berlusconi, e noi siamo qui a interrogarci su questo. Quindi è la bicamerale degli affetti, cioè non avete la bicamerale, due camere, avete una monocamera. No, la politica resta fuori. La politica è fuori dalla porta. Come, non ne parlate mai? Raramente. Come raramente? In stanza no. Vabbè, no. Giustamente istanza ci fa perché anche, lei scusi parla anche. Di politica continuamente anch'io, non è che quando torno a casa faccio chi anche perché la moglie lo caccia fuori e al prossimo Vedrò dormi con Cruciani. Vabbè, allora però questo l'abbiamo accertato, cioè dormo nella stessa stanza. Ti sei tolto questa curiosità che peraltro due persone fidanzate che hanno, come dire, anche fatto coming out pubblico ormai. Appunto. Dove devono fare? Devono dormire in due stanze separate? Vabbè. Questione matrimonio. C'è una data, non c'è una data? Perché sarebbe simpatico sapere una data così. Ma ci sarà, poi la daremo. Ma c'è, non c'è. Entro l'anno? Prepari il vestito. Entro l'anno? Si prepari. Beh, caspita. Io sono all'antica, questa cosa chiedete la Boccia. Cioè, poi io sono in maggioranza, già decidiamo cose importanti per il paese, lasciamo qualcosa all'opposizione. Allora, signora Boccia, entro l'anno si può dire? Lei prepara il vestito. Prepari. Perché saremo invitati. La zanzara sarà invitata. La zanzara dipende da come vi comportate. No, però veramente. Entro l'anno. Quando ci sarà la data, diremo. Se lei mi dice prepari il vestito, significa che è una cosa imminente. È una cosa breve. A breve? Ah, beh, questa cioè, sposerete prima voi o Berlusconi fa la riforma? Questo, scusa, sono le 18:40. No, guardi, se rispondere, la risposta è facile. Sposerete prima voi o Berlusconi farà le riforme? Farà prima le riforme Berlusconi. Comunque la borsa, già questo annuncio, presto ci sposeremo. Sì, potrebbe, la borsa aperta. La borsa aperta la cosa. Potrebbe creare, no? Il default di qualche banca. Però a breve che sia, entro l'anno. Non c'è una data, ma lei prepara il vestito. Ecco, prima, sempre prima della politica, un'altra curiosità. Questa è una mia curiosità, devo dire la verità. È qui presente, questo lo possiamo dire, qui è una casa di vetro, qualcosa di trasparente, vedrò, qualcosa di molto trasparente e trasversale. C'è anche l'ex del signor Boccia. No? Sì. È una cosa molto moderna, grande modernità. Cruciani. Noi siamo quelli del popolo, loro sono quelli del centro sociale. Che cosa mi domando? Ma per cui a lei dà fastidio questa cosa? Questi di sinistra sono aperti, sono moderni, come sono contemporanei. Perché lei fa la parte della tradizionalista. Certo, io sì. Cruciani, la manovra. Scusi, Cruciani, ma c'è il mio ex o la sua ex? Anche la sua ex. E quindi? Il suo ex, no. Appunto, non so nemmeno chi sia. Il mio ex non c'è, quindi io ho una visione diversa da Boccia. Vabbè, perché non è del mondo della politica, della comunicazione. Solo per questo, esatto. Però come si vive, ecco, questa situazione? Ma guardi, me l'ha presentato recentemente su ex. Ah sì, vabbè, questo però ho capito, quindi significa che c'è una destra che si sta avvicinando a... Non è del mondo della politica, era un architetto della mia età, di Benevento. Ottimo. Questo si sapeva già. Sempre a borse aperte, però queste notizie potrebbero destare. Andiamo panico. A meno 20. No, però prima ho assistito a una scena molto bella, devo dire, che bisognerebbe anche comunicare alle persone che hanno problemi, come dire, sono separate, hanno figli, eccetera. Il signor Boccia ha due figli, appunto, con questa signora, questa ragazza che è qui presente, una delle organizzatrici, la quale a sua volta è fidanzata con un noto giornalista che si chiama signor Piroso. Lo conosci tu, signor Piroso? C'è una situazione di comune qua, c'è una situazione di comune. Te l'ho detto, i centri sociali. C'è una grande comune, giusto? Ma è la bellezza della vita. Vedi che sei un borghese. Già il fatto che fai queste domande. Ma è molto bello perché sei un borghesotto. No, è molto bello, ma perché bello la signora si chiama Benedetta Rizzo, la signora. Adesso si offenderà per questa cosa. Adesso sicuramente. Lo sa tutta l'Italia. No, beh, quello è notorio, lo sanno dietro lavoro, lo sanno, non bisogna essere ipocriti. Su questa cosa ha detto: beh, io a me sta molto simpatica. La signora di Giro, Annunzia, mi sta molto simpatica, l'apprezzo, la stimo, mi fa piacere. Sono simpatica. Mi fa anche piacere che stia insieme a Boccia. Certo. Bella questa cosa, no? Ma quanto è borghese, bella questa cosa che avete dei rapporti con gli ex così aperti. Abbiamo dei rapporti democratici. Lei ha avuto esperienze negative con sono nel con gli ex. Il problema non sono io, Parenzo ha avuto problemi negativi, Cruciani. Non posso parlare. Si sarebbe appassionato. No, non parlo di questi temi col direttorissimo. Non affrontiamo mai il tema della sessualità, che è stato dell'amore. Lei è gelosa. Ah, quindi lui è un po' come Fede con Berlusconi. Lei è lei è gelosa. Così Parenzo e con Cruciani. No, non mettete in giro queste voci. Lei è gelosa? No. Adeguatamente. Lei? Nunzia, da donna del sud, è gelosa ma non lo dice. È gelosa ma non lo dice. Perché non parla per sé? È gelosa, cioè... Perché... O è il mio portavoce adesso. Per cui lo considerate uno degli uomini in Parlamento più belli, diciamo, no? Beh, bisogna vedere insomma la statistica generale. Ma come? Ma che dice? Questo è giusto. Colpo bassissimo. La media è così bassa. Se la media è si passa da Scilipoti. Se la hai Scilipoti. E da Papa, per esempio. E Papa al signore. O Fassino e. O Fassino, proprio. Stiamo distruggendo completamente tutto. Anche la zanzara. Però parleremo di politica adesso, dopo il traffico. 18:45, traffico. Sì, siamo qui a Bedrò nella grande famiglia allargata, Boccia, De Girolamo, lui, lei, l'ex e il fidanzato dell'ex di Boccia. Una cosa pazzesca. Questa cosa mi ha colpito, la grande famiglia allargata di Bedrò, deputato del PD. Un deputato del PDL, l'ex del deputato del PD, scusa se mi sbaglio perché la situazione è ingarbugliata, e c'è anche il fidanzato dell'ex e altre 599 persone, è una cosa pazzesca, la grande famiglia allargata, che giustamente ha decidono tradizionalista e dice: no, mi sembra una comune questa qua, giusto? Mi sembra una comune, e ti so come fargli pagare a questa di sinistra questa cosa. Ah, perché questa scegliere cosa è... come testimone di nozze Berlusconi, non c'è danno più grande che puoi fare agli altri. Io non ci credo che lei, quando vi sposerete, cioè a breve, lei sceglierà Berlusconi come testimone di nozze. Berlusconi accetta, sì. Non ci credo, questa l'avete detta così. E invece il signor Boccia prenderà Letta. Ma così l'hanno detto, ma non lo faranno. Smentiamo questa cosa. Sarebbe una cosa veramente assurda. Vi conosco come persone intelligenti, capaci. Non sceglierete mai né Berlusconi né Letta, cioè, mai. Giusto? Ma giusto, Francesco è molto amico di Letta. Vabbè, quello è un altro amico. Anche oltre la politica. Amicizia fraterna tra me. Ma oltre la politica. Vabbè, siamo qui e voglio chiedere subito una cosa a Boccia, però risposte molto secche e molto brevi se può. Bersani, Penati. Penati. Lei conosce Penati? Siamo Penati? Non di persona. Penati oggi sta creando un po' di problemi a Boccia. Lei è contenta di questo? A casa glielo dice, ha visto Penati, quando siete a casa hai visto Penati che, che casini che vi crea, Ora tocca a voi. Anche voi. Ora tocca a voi. Diciamo che visto che loro hanno fatto tutti e fanno e continuano a fare giustizialisti, non c'è metodo migliore che trovarsi in una situazione come il caso Penati. Oh, lei dunque è contenta di questa cosa? No, contenta no, perché non auguro mai il male a nessuno, tantomeno a Penati, insomma. Però è arrivato a casa e gli ha detto avete visto anche voi, avete non un casino. Siamo giustizialisti. Beh. Noi siamo per la Repubblica Italiana, per il rispetto delle istituzioni e dell'autonomia della magistratura. Anche noi. Adesso non mi dica cosa ascoltate. Non mi pare che voi siate in grado di difendere, diciamo, il lavoro della magistratura per tutto quello che avete fatto in questi anni. No, è vero. E Penati oggi, lo dico, ma si deve, all'onorevole De Girolamo, a Cruciani e a Parenzo, ha appena fatto una lettera ai democratici annunciando che rinuncerà alla prescrizione. Dov'è questa? Dov'è? È uscita dall'agenzia ragazzi, non vi vedo preparati. No, ha ragione. Fatti troppo i fatti della è che non riesco ad aprire queste, non riesco ad aprire le agenzie. Questo fare. Sì, però ci hanno umiliato, Boccia. Sì, no, ma è un'umiliazione pazzesca. Siamo qui a cantare chi e c'ha la lettera, manco lo sappiamo, amico mio. No, ma hai ragione, per carità. Posso dire però che io sono faccio parte dello stesso male vostro, io lo sapevo. E perché siete dove sta questa roba qua? Dove in sta? Qualche modo dove sta? In agenzia? Ci dia lei la notizia. Ecco la lettera di Penati al partito. Non mi nascondo dietro la prescrizione. Non esiste, però non ha detto che rinuncia. Non mi nascondo dietro la prescrizione. Ha detto che se dovesse, sì, se dovesse essere rinviato, non l'ho letta perché sono stato non è che non mi sono arricchito la politica sulla prescrizione, non userò scorciatoie. Certo. Ancora non è ufficiale che rinuncia alla prescrizione. Mi sembra molto chiara la perché posizione. Uno poi deve rinunciare alla prescrizione? È una forzatura. Infatti chiedono l'applicazione della legge, rispetto della giustizia, rispetto dei magistrati, eccetera, eccetera, eccetera, e poi chiedono a una persona di rinunciare alla prescrizione che è giuridicamente e legislativamente previsto. È sempre un alibi dietro il quale vi nascondete. Io lo dico. Siamo alle solite. No, parliamo di chiedere di rinunciare alla prescrizione è una cosa giustizialista e anche un po' disumana, devo dire. Non è chiedere di rinunciare alla prescrizione. Noi siamo un partito che in questi 15 anni si è distinto dal principale partito di governo per aver difeso l'autonomia della magistratura. Quando qualcuno di noi fa un errore, intanto non lo nominiamo ministro. No, infatti lo candidato al Senato. Non lo difendiamo e gli chiediamo di difendersi davanti ai magistrati. Nel caso di Penati, essendo un reato prescritto, Penati ha il diritto che hanno tutti gli altri, compresi i colleghi del PDL, di difendersi. Nello stesso tempo non può trascinarsi nella sua difesa il partito intero o l'istituzione che rappresenta. Per questa ragione il partito è già trascinato dal fatto che era il principale collaboratore di Penati, è azzoppato il segretario. Assolutamente. È azzoppato Bersani, sì. Sì, e dico un'altra cosa. Il nostro ordinamento prevede la prescrizione. Non vedo perché voi dovete chiedere ad una persona di non applicare la prescrizione al suo caso specifico. È diverso. Che poi contestualmente si autosospende. Chiediamo dal al dirigente di partito se crede nel partito e nelle battaglie che il partito fa. Magari chiedetegli di non prendere i soldi da Come lottano. Noi gli chiediamo di difendersi come si difendono nel processo. Tutti i cittadini nel processo. Ma la prescrizione vale per tutti i cittadini, non è che vale solo per Penati. No, questo guardi, quando uno decide di fare il dirigente politico, se uno si ritira a vita privata, non rappresenta più un partito, non rappresenta più i principi di quel partito. È perché voi avete e ha ragione a quel punto sia Lega De Girolamo nel dire. Se la legge glielo consente. Ma scusa, non è più giusto, non vorrei interromperti, che lui si dimette da consigliere regionale. Si dimette da consigliere regionale. Ho il diritto perché sono in maggioranza. No, giusto. Non vorrei interromperti, poi ti interrompo. No. Anche a casa chi sparecchia. Ma anche quando devi ordinare la pizza. No, è più collaborativo su questo. Anche quando devi ordinare la pizza. No, dico una cosa, se lui si dimette da consigliere regionale, si dimette invece di autosospendersi dal PD e utilizza la prescrizione come farebbe qualsiasi cittadino, sarebbe più giusto. Come sarebbe più giusto, visto che i magistrati hanno detto che c'è un sistema diffuso che non riguarda solo Penati, è evidente, come diceva Cruciani, che forse Bersani è segretario del PD, essendo Penati il maggiore collaboratore. Ma siamo all'inizio di un'inchiesta. Ma è la appunto, tesi. Lasciamo che la magistratura un po' azzoppato, faccia... Non è azzoppato Bersani, un po', certo. Politicamente un po' azzoppato, non c'è dubbio. Bersani... Cioè, per esempio, le primarie, alle primarie... Penati era il grande organizzatore delle primarie di Bersani. Ma non è vero. Come no? Uno dei grandi organizzatori, anche dal punto di vista al nord. Ma non è vero. Un grande organizzatore delle primarie di Bersani. Uno tra gli era Letta, era la Bindi, erano gli alleati. Uno tra gli organizzatori delle primarie di Bersani. Fu chiamato all'epoca insieme a Bersani a lavorare. Bersani ha avuto 1,5 milioni di voti. Mica dico gliel'ha portati tutti Penati, per carità. Diciamo, sarebbe tecnicamente impossibile. No, certo. Penati ha votato Bersani come hanno votato Bersani un 1,5 milioni di persone. Quindi, però lo dicono tutti che è rimasto un po', come dire, che politicamente risente molto di questa vicenda qua. Cioè è un po' azzoppato politicamente questo, al momento, no? Lo dicono tutti coloro che non vogliono bene al Partito Democratico. No, no, non è vero, io sono là esterno. Lei lo dice forse. No, io dico che siamo alle solite del Partito Democratico, due pesi, due misure, soprattutto perché piuttosto che chiedere oggi la prescrizione a Penati, mi sembrerebbe molto più coerente con la loro posizione evitare di candidare Tedesco al Senato per proteggerlo rispetto ad un giudizio che poi nel tempo si è verificato tale e quindi spostando De Castro in Europa. Cioè, credo che questo dimostri che quando si tratta degli uomini del Partito Democratico tutto va bene, dicendo che si rispetta la giustizia eccetera eccetera. Noi rispettiamo la giustizia, io personalmente rispetto l'autonomia della magistratura, però non si può negare che Bersani, Penati, Tedesco, D'Alema, quanti altri non sono stati perseguitati dalla giustizia come Silvio Berlusconi. Poi nel nostro partito ci sono altri diversi, l'avevamo tenuto fuori. Però, ma deve essere espulso, secondo lei? Espulso dal partito? No, lo valuteranno i propri viri. Una persona viene espulsa se è condannata e se è responsabile di alcuni reati. Non mi pare in questo momento la procura di Monza sia in grado di dimostrare che quei reati sono stati compiuti. Io auguro a Penati di difendersi e lo dico anche a Nunzia, come auguro a tutti gli imputati di potersi difendere. Però noi abbiamo il dovere di difendere le istituzioni, noi siamo i difensori delle istituzioni e quando c'è un nostro collega che sbaglia è inevitabile, deve pagare se ha sbagliato, ma deve potersi difendere. Nel momento in cui si difende non può rappresentare l'istituzione. È ormai fuori dalla politica? Nella fase in cui deve difendersi, lo dico, è ormai fuori dalla politica Penati, diciamo, con le accuse che ha. Ma è inevitabile, io gli auguro di rientrare presto e di difendersi presto. A questo punto di vista dobbiamo mettere anche i magistrati nella condizione di esprimersi al più presto. La notizia di oggi è che un politico, ragazzi, per la prima volta rinuncia alla prescrizione. È una notizia effettivamente clamorosa. Non è un qualora fosse confermato, non è proprio così. È la prima volta che un politico rinuncia. È una violenza, uno può decidere, ma è una violenza che gli fa il partito. Però è il ragionamento che fa la violenza è corretto, siccome è un uomo pubblico, è stato messo lì perché appartiene a una comunità, a una storia, delle persone hanno creduto la difesa personale per dei reati. C'entra molto, perché non è una persona, un cittadino qualunque, è uno che rappresenta un pezzo. Se noi, ragazzi, se noi inauguriamo una stagione così, raddrizziamo il paese e farà bene a tutti, PDL compreso, perché lo so per certo, dentro il PDL, al di là delle vicende che riguardano Berlusconi, che inevitabilmente poi dividono, come tutte le cose che sono successe in questi 15 anni, poi dallo stesso Alfano in giù, la necessità di rendere il rapporto con la giustizia un rapporto paese normale è un'esigenza sentita. Ma non passando attraverso la rinuncia della prescrizione alla prescrizione di un individuo, secondo me. Pure comunque, secondo me, come deve essere l'abito? Come deve essere il matrimonio? Un matrimonio elegante, un matrimonio. Ma pure gli ospiti? Vabbè, cioè, pure gli invitati, pure gli invitati, no? Già siete in disaccordo. Già siete in disaccordo. Il catering, cioè, infatti, i miei invitati seguiranno le mie direttive. Ma come lo immaginate questo matrimonio? Un matrimonio semplice cioè, piccolo, certo. Invitati più di 100 meno 100, è sempre quello il discrimine. Ecco, diciamo in piazza, che tutto lì. No, l'anguria no, perché se si fa d'inverno, vediamo. Ah, d'inverno, quindi vuol dire tra poco. Beh, certo, non è capito. No, nel senso. Diciamo, è difficile, essendo due persone che hanno un percorso non solo politico ma anche professionale e di amicizie con famiglie eccetera eccetera, è chiaro che il matrimonio o lo fai di 100 persone o di 300, arrivi a un numero e altissimo. Oppure vai a Tahiti e ti sposi a Tahiti. Esatto. Arriverete quindi a un numero alto. Se arrivi a un numero alto fai una festa e non puoi fare il matrimonio. Viene a Picella a suonare, a Picella il maestro? No. Chi no. Via? No, niente. Ma è Confalonieri? Confalonieri non sarebbe male. Confalonieri? Altra notizia, la zanzara, boccia, due punti. Voglio Confalonieri al mio matrimonio. Al mio matrimonio. Che suona il piano. Confalonieri ridotto a menestrelle del matrimonio. una cosa pazzesca. Una cosa che non si può sentire. Però è un'immagine, è molto ragazzi, bella. Ma avete sentito come suona? Grazie. Cioè, lì è un maestro, come suona? Vero? No, suona, ci sono versioni discordanti su questo. Secondo alcuni è molto bravo, secondo altri no, è bravissimo. E poi esattamente come siamo noi, è umile, simpatico, è una persona a modo. No, non ho bisogno, non ho assolutamente bisogno. Grazie, Giornale Radio, a dopo. Grazie. Caro Parenzo, 800 24 00 24, fra poco ascoltatori, la Zanzara in diretta da Vedrò per il secondo giorno qui in Trentino. Bella, bella atmosfera, bel clima, siamo stati bene, no? Molto bene, cioè, direi, molto bene. Bello anche il posto, perché vabbè, lago. La gente che ci sta ascoltando non gliene frega niente, oh, bello, capito, il posto, però. Brutto il posto. Mandiamo i titoli del TG3, stasera particolarmente interessanti per una serie di motivi, introdotti come sempre, dillo tu. Dalla signora Maristel Polanco. Ma no, ma Maristel Polanco, scusa, era prima, cioè, era no, prima. La signora Belen, no, no, Bala, no. Sabina Began, oh. L'ape regina. Sabina Began introduce i titoli del TG3. Sai, queste signore si è confuso, si è confuso. Vabbè. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Belinguer. Berlusconi soddisfatto, manovra più equa e sostenibile, ma scontro sulla supertassa che resta per gli statali, magistrati è incostituzionale. Al saldo della manovra mancano 5 miliardi, il PD colpiti gli onesti e chi ha sempre pagato le tasse, salvi gli evasori, Casini ospite al TG3. La protesta di chi ha riscattato gli anni dell'università e resta senza benefici, la Camusso un golpe, la UIL annuncia lo sciopero degli statali. Banca Italia, manovra necessaria, ma c'è il rischio stagnazione. Per la Corte dei Conti eccessivo ricorso alle tasse, record di prelievo fiscale. I leader e i ribelli lanciano l'ultimatum ai lealisti asserragliati a Sirte, arrendetevi entro sabato, 50.000 le vittime del conflitto. Lettera di Penati al PD milanese, se le indagini non chiariranno tutto rinuncerò alla prescrizione. Nell'inchiesta un manager di Banca Intesa. Ritardi nelle convocazioni, graduatorie bloccate, posti congelati, comincia l'assegnazione dei posti di ruolo e le supplenze nella scuola ed è già caos. Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di colle, stofanti di lamille, topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Io vorrei che le persone che sono in macchina, in sì, autostrada, ad esempio, stanno correndo a 100 all'ora, togliessero improvvisamente le mani dal volante e battessero le mani cantando perché sono onomatope. Insegniamo anche questa parola, diciamo alla radio, sì, sì, sì. Onomatopei, è una sola parola, onomatopei. Sei splendido, nel tuo passaggio dal giornalismo serio al giornalismo, dal giornalismo serio al, abbiamo studiato al cantare Pippo Franco. Hai tirato fuori la mia vera anima. Sì, la tua anima da amici miei, diciamo la verità. Hai sentito il titolo del TG3? Sentiamo un po' di ascoltatori. Anzi, no, sentiamo prima Di Pietro. Di Pietro su Penati. Su Penati c'è una responsabilità di Bersani. Naturalmente non si capisce perché. Anzi, Di Pietro è sempre gentile col PD. Sempre molto gentile. Sentiamo. Quando una nave va a sbattere contro uno scoglio, sarà pure colpo del Nostromo, ma la responsabilità oggettiva se la porta a casa il comandante della nave. Che poi è la stessa posizione che hanno alcuni giornali, per esempio, di centrodestra, o anche sì, lo stesso Gasparri, per esempio, la dico grossa, no? Chi è Gasparri? Gasparri, capogruppo. Signor Gasparri. Gasparri, credo sia capogruppo del PDL al Senato. Senato, sono Maurizio Gasparri. Maurizio Gasparri, perché lo dici Gasparri in questo modo? No, Maurizio, dai, Gasparri. Che simpatico Gasparri. Come, chi è che disse? Cicchitto. Vabbè, l'ha detto Gasparri. No, no, no, quello lo disse. Ah, ma tanto è Gasparri. Tanto è Gasparri. Gasparri, chi era? Sì, mi ricordo. Vabbè, comunque. Lo ha detto Gasparri. Che ha detto Gasparri? Si scrive Penati e si legge Bersani. Questo vuole dire Di Pietro in realtà, no? Si scrive Penati e quindi si legge Di Pietro Bersani. Come Gasparri. Eh beh, sì, arrivano due querele, lo sai, no? No, ma ha detto la stessa cosa, si scrive Penati e si legge Bersani. che è un'interpretazione possibile che mette, come dire, mette in discussione il ruolo di Bersani come leader, perché di questo si parla in queste ore, in questi giorni. Allora, Di Pietro l'abbiamo ascoltato, la Camusso pure, anche se parla di golpe, vediamo il golpe sulle pensioni della Camusso. Tanto qualsiasi cosa si tocca sulle pensioni, il leader della CGIL dice: beh, è un golpe, un colpo, vogliono togliere la pensione agli italiani, ai lavoratori, ai poveracci, eccetera. Comunque sentiamo la Camusso, va. Vorremmo dire che ieri sulle pensioni è stato fatto un golpe, della cui gravità forse non ci si è ancora del tutto resi conto. Attenzione! Una cosa gravissima. Attenti al matto, hai sentito la canzone di Camusso? No, era tagliata. Non era riferito, diciamolo subito. Perché crea... la radio di Confindustria, però non era riferito alla Camusso. Sennò si sembra... crea un equivoco mostruoso. Mostruoso. Davvero non era riferito. C'è un Berlusconi ancora da mettere, da far sentire? Facciamo ridere sta cosa. È tagliato tra. No, ora manovra più equa e sostenibile. No, abbiamo già fatto sentire tutto. Gasparri, no? Non l'hai fatto sentire. No, ma Gasparri non è di oggi. Ah. Di Pietro, ad Arcore tra te e Camomilla, tiremo a campana. Questa mattina l'Alessandro Milan, sentiamo. E allora, dobbiamo aspettare, Di Pietro, ad Arcore, tra abbiamo te abbiamo soltanto un comunicato ad Arcore, tra un te e una camomilla hanno detto, faremo, tiremo a campagna. Cagliola intercettato dalla 7 ieri, sono sereno, indagato sulla questione della famosa casa, sentiamo. Sono assolutamente sereno. Potrà essere l'occasione per la chiarezza definitiva. E Renzi qui da noi ieri, Radio 24, la Zanzara su Marchionne, improvvisamente, no? Doveva dare un colpetto a Marchionne, perché è stato sempre buffetto dipinto a Marchionne. È stato sempre dipinto Renzi come amico di Marchionne, vicino alle posizioni di Marchionne, e ieri si è voluto un po' sfogare. Marchionne non può fare la morale sulle tasse, sulla patrimoniale, perché ha la residenza in Svizzera, però questo è vero. Bravo sto Renzi, ha ragione. Sentiamo. Oggi però credo che non sia propriamente sbagliato dire sommessamente che Marchionne non può tutte le volte farci la morale, cioè se alla fine Marchionne decide di fare una macchina decente non è che ci offendiamo, mette bocca sul come fare il fisco in Italia e inizia a prendere la residenza in Italia anziché in Svizzera, oh, non parlare di fisco, inizia a mettere bocca sulle questioni politiche tutti i giorni e poi anche sulla Lega ci andavo giù forte con Bossi e il figlio, sembra di stare in Nord Corea. Siamo il Nord Corea. Scene di Bossi con il figlio, l'erede designato, che manda avanti il figlio quando lui non sta bene. Cioè, non è il Nord Italia, è il Nord Corea, una cosa del genere. Non male, non male, non male anche sui sindacati. Il PD non deve andare in piazza, il sindacato non è rappresentativo, tagliamo i permessi sindacali. Cose che mi fanno emozionare, come sai. Mi fanno emozionare, come sai. Franco D'Alecco, buonasera. Chi è Franco? Signor Franco, un ascoltatore. Dica, abbiamo qua un ospite, fra poco, il sindaco di Bari, di Bari Emiliano, fra poco. Già impostazione, pronto fra poco con noi, Franco D'Alecco, buonasera. Buonasera, senta, ma io volevo dire una cosa, ma è mai possibile che la storia delle pensioni non sia adeguatamente chiarita dai giornali, dai sindacati e compagnia bella? Tutte le volte che si tocca le pensioni sembra che si voglia affamare il popolo, ma siamo una banda di scemi tutti, caspita qua. Cioè in che senso le dice non è chiarita? Nel senso che le pensioni è giusto che siano riviste in un'ottica ragionevole. Forse voi non dite che in Italia si lavora 3 o 4 anni in media della media europea. Ma come lo diciamo? Sono anni che lo diciamo qui. Sono anni che lo diciamo, caro ascoltatore. Ma allora, sono io mi chiedo, ma anche questa Camusso che adesso è una zucca vuota, già di per sé lo si vede come vuota, non esageriamo, su. La Camusso fa mestiere suo, la CGIL, ma la CGIL difende i pensionati. I pensionati, certo, racconta che si toccano le pensioni. In questo caso, in realtà, c'è la questione degli anni dell'università e degli anni, degli anni del militare. Io ci ha raccontato stamattina Giannino che in realtà si risparmia poco toccando queste cose. Sì, non si fa cassa, certo. Non è che si fa molta cassa. Doveva essere alzata l'età pensionabile, al di là del fatto del militare, alzata subito l'età pensionabile. Ma mi sono stupato di dire queste cose, Franco. Della sera, in tutta Europa, ma siamo i più intelligenti dell'Europa? Non credo, anche noi dobbiamo misurarci con la concorrenza normale, no? Cioè non possiamo pensare di essere facciamo più fieri degli altri. Cioè, ma non per essere rigorosi ad ogni costo, ma ci misuriamo sul mercato mondiale, non possiamo essere così. Dunque ci dobbiamo mettere in media con gli altri paesi europei. Va bene, grazie. Marco da Milano, buonasera. Marco da Milano, già visto l'Espresso. Sì, non è Marco da Milano, Marco che chiama da Milano. Sì, Marco, dica. Sono arrivato a Milano da poco, saluto. È la prima volta che mi collego. Sì, ma speriamo non sia l'ultima. Anche la misura dell'incazzamento. In che senso? Perché lei è molto incazzato e dunque per questo ci chiama. Sì, perché alla non fine... mi sembra incazzato però dalla voce, scusi caro Marco, non mi sembra molto arrabbiato. Mi so controllare. Perché cosa è arrabbiato, mi scusi? Ma stamattina mi sono alzato e mi sono sentito decurtato di un diritto sacrosanto secondo me. E qual è il diritto, scusi? Tutti qua si sentono decurtati e colpiti nei diritti in Italia. In Italia appena si tocca qualcosa, il diritto, colpito il mio diritto. Ma le spiego velocissimamente. Non è che le cose siano eterne. No, no, ci mancherebbe, però insomma quando io servo la patria facendo militare e non è tanto una scelta volontaria, studio e qui vabbè è su base volontaria, ma comunque va a incidere questo mio patrimonio indirettamente sulla produttività del sistema globale, e mi sento dire che tutto questo che ho acquisito, e sono a poco tempo dal traguardo agognato della pensione perché ne ho due maroni che non ce la faccio più, mi sveglio e mi mancano n anni. Insomma, dice lei bene. No, guardi, secondo me si doveva agire in modo diverso. Vedo che c'è su internet una grande mobilitazione, naie, lauree, anni buttati, indignazione dopo la notizia che ai fini dell'età pensionabile il riscatto non avrà più valore. Dal punto di vista tecnico poi non so nemmeno come funzioni, se non hanno più valore gli anni, ma in realtà sì, i contributi invece sì. Insomma, la cosa è un po' complicata. Però, insomma, voglio dire, non è che è tutto intoccabile in Italia. Cioè, anche qui, io non so se in altri paesi si possa accumulare ai fini della pensione l'anno di militare o l'anno e mezzo se uno ha fatto l'ufficiale e gli anni di studio. Non so se siano cumulabili all'estero. Probabilmente in alcuni paesi sì, in altri no. Ma non è che tutto resta immutabile sempre. Capito? In questo paese gli unici governi che hanno fatto riforme sono stati i governi tecnici che hanno fatto riforme strutturali. Vabbè, sono tutti avventurare in questo caso. Ma no, ma perché facciamo così completare l'ascoltatore. Nessun politico ha mai affrontato signor un tema Marco, allora lei si sente defraudato. Perché poi voi avete una responsabilità. Enorme. Ma guardi che anch'io ho fatto il militare, anch'io ho fatto l'università, dunque probabilmente la cosa vale pure per me. Alla fine voi siete portatori, pochi portatori, di tanti come me, signor nessuno, che non possono che alla fine telefonare alla Zanzara. Perché, ma lasci perdere il telefonare alla Zanzara, qua dice non si potrà più riscattare ai fini degli anni di anzianità il servizio che saranno comunque computati per il calcolo delle pensioni. Sì, mi lasci finire il concetto, qui hanno rimpiazzato, raspando tra l'altro poche risorse, una invece risorsa sicura che era la patrimoniale, ma perché? Per togliere la patrimoniale dal tavolo del progetto, tra ricchi, e tra ricchi ci sono i politici, ci ha messo 30 minuti, i ricchi si sono detti togliamola, non vorrete mica far sul serio, e se la sono tolta, e mi ha stupito che la Lega abbia avvallato tutto questo. Io che sono signor nessuno devo telefonare a lei, Cruciani. Vabbè, ma quindi adesso voi avete questa responsabilità. Non nessuna responsabilità, non mi metto addosso questa responsabilità. Lei ha chiamato una trasmissione radiofonica, ha detto la sua, punto e basta, per cui non ci assumiamo responsabilità che non abbiamo. Grazie, dove andiamo? Prima del traffico, cioè no, prima della borsa, c'è la borsa, ancora no. Fabrizio dalla provincia di Firenze, buonasera. A Firenze. Guarda. Dunque, come scusi? Allacciandomi al portatore precedente, vorrei capire un po' come mai nei giorni precedenti vari politici, giornalisti, anche all'interno della vostra trasmissione, hanno detto che non si potevano ritassare i soldi scudati, tra l'altro normalmente appartenenti ad evasori, perché si era fatto un patto con i cittadini. Ma guardi, l'ho detto io, cioè, non è che deve cercare troppo lontano, cioè, l'ho detto io, l'ho sostenuto io e lo continuo a sostenere ancora. Dopodiché poi che tecnicamente si possa fare, sì, perché attraverso gli intermediari, attraverso le banche, probabilmente si possono rintracciare. Si deve fare, non so. Secondo Parenzo si deve fare, perché sono dei ladri, chi porta i soldi all'estero è un ladro. Insiste ancora su questo. No, ma non ci sono altre parole. Comunque è una delle proposte del Partito Democratico che non è stata recepita dal governo. Secondo me se uno firma un patto anche scellerato con qualcuno per riportare i soldi in Italia, anche con un ladro, chiamalo ladro, quello che ti pare, ha firmato un patto, sarà stata bassa la tassazione, però quel patto rimane. Se tu lo violi è un'ulteriore sconfitta del rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato. No, perché l'anonimato rimane, quindi il patto non viene, non salta, rimane l'anonimato. Fabrizio, ma deve pagare perché è un ladro. Allora Fabrizio dica. No, appunto, e colui che invece ha pagato per riscattare l'università, non è che aveva fatto lo stesso un patto con lo Stato e oggi gli viene detratto questo suo diritto? No, veramente chi l'ha già fatto prima non credo che vale per il futuro, non credo che chi ha già vale per il è andato già in pensione torna a lavorare per no, non so quanti anni. Una cosa pazzesca. Io, No, chi è già in pensione no, ma chi ha riscattato i soldi e magari doveva andare in pensione come l'ascoltatore precedente. Ma non lo so, adesso tecnicamente ancora, tecnicamente, guardi, tecnicamente le cose non so, se uno ha già pagato il riscatto, io, perché ripeto, dal punto di vista contributivo, dei contributi, adesso non ci addentriamo però in queste cose tecniche, non mi rompete le scatole su questo, dal punto di vista tecnico credo che il contributo valga ancora, ma non gli anni per l'anzianità, questa questo credo che sia la cosa. Tanti galli che cantano, chi le galline rispondono, se i piccioni spariscono, cosa pazzesca, tutte le papere piangono. Beh, però no, cioè, ascoltandola ne trovi un senso, un'intelligenza, un'idea, vuoi mettere no, questo? Io sono appassionato di queste canzoni, però insomma adesso addirittura un senso, no, un... un'analisi sì. semiotica andrebbe fatta, no, magari come bene, Renzo, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. David Parezzo accanto a me, il sindaco di Bari, Emiliano. Applausi, applausi, come applausi. Come sta, signor Emiliano? Bene, insomma, bene. Ma è dura trovarsi proprio di fronte a voi. Senta, ma quanto pesa lei? Scusi, no? Non la voglio offendere. 124. 124. Ha visto Berlusconi sta facendo questa dieta pazzesca, no? Sì. Com'è che si chiama? Dieta? Non so, dieta con lo yoga. No, le tisanine. Bene, sì, non tisanoreica. Sì. Tisanoreica. Tisanoreica. E in più c'è anche l'agopuntura di Scilipoti insieme, pare. Il combinato disposto tra l'agopuntura di Scilipoti e la dieta di tisanoreica. Si farebbe lei agopunturare dal signor Scilipoti per dimagrire? L'ho visto un po' invecchiato Berlusconi dopo questa dieta. Aveva delle rughe profondissime. Cioè le dice, gli ha fatto male la dieta? Secondo me sì. Cioè lei dice le diete fanno sempre male. Le diete fanno una tristezza pazzesca. Ma serve essere più magri per fare il politico o no? Dare l'impressione di essere devo essere più... sincero, sì. Avere qualche chilo in meno, soprattutto se si fa il sindaco di una città piuttosto complicata come la mia, è molto meglio, perché si riesce a gestire la prestazione atletica che esiste in questo lavoro molto meglio. E in più, ecco, tanti incidenti, tipo per esempio la camicia che si apre sul più bello di una conferenza pubblica o di una conferenza stampa, tu vieni con le fotografie, con l'ombelico in primo piano, cose indegne, queste cose scene, diciamo, terribili, che poi, soprattutto perché poi mia madre si arrabbia moltissimo per queste cose, le chiama vastasate, non so se voi... bella confessione, questi vi piacciono, cioè, la madre sei comportato come un vastaso, cioè? Per esempio se ho i capelli troppo lunghi, se adopero la barba, ma chi è il vastaso? Perché non è vastaso. Beh, no, vastaso è un termine terrone, proprio, sì, appunto, raccoglie tutto, un capone, un capone. Che è il maschio della vagliassa praticamente. No, no, un vastaso è un uomo che ha delle difficoltà a gestire il galateo, i modi, che sbaglia il tono della voce, che si veste in modo inappropriato. Mia madre è una donna molto elegante, a differenza del figlio. Dunque ogni tanto le dice, e quindi mi rimprovera, sei un vastaso. Mia madre era famosa anche perché durante un comizio, sì, della campagna elettorale, io ne stavo dicendo tutti i colori su un avversario politico, e lei era sotto il palco di fronte a me con tutte e due le mani, bellissimo, mi faceva segno calma, calma, fermo. No, ma solo la Zanzara si riesce a raccontare. Scusi un attimo, ma dunque anche quando lei, sì, il fatto che lei sia 120, quanto? 124. 124, sua madre, però, non dice niente. Non lo ripetiamo. Non lo ripetiamo. Sua madre non le dice, devi dimagrire. Mia madre è un incubo. Ad ogni pranzo di famiglia lei si siede vicino a me per impedirmi di mangiare troppo. Perché le mamme italiane sono straordinarie. Mi sembra che i risultati di questa Voi ve lo ricordate, Collovati? Sì, come? Certo, il grande Fulvio. Stopper campione Fulvio, del mondo. Mia madre è uguale, cioè marca strettissimo. I suoi figli, però noi, per adesso siamo risultati, tre fratelli. Risultati... Beh, ho fatto di molto peggio che 124. Sì. A quanto è arrivato? No, non ve lo dico. 132 una volta. 132 sì, una volta. Ma scusi, ma lei ha intenzione di fare una dieta? Per, o io no? Ne faccio tantissime. Non c'è la città di Bari. Tantissime diete. La città di Bari, annuncia lei i parcheggi. Ne faccio tantissime, no, di diete. Il problema è che dopo le diete, ecco, la definizione esatta di dieta è breve periodo di fame che prelude a un ulteriore aumento di peso. Cioè, no, il fatto che uno può anche dimagrire, poi però lei sbraca. Io lei adesso sbraca. Voglio lanciare davvero un abbraccio a tutti quelli che hanno il metabolismo come il mio. Eh sì, perché poi lo faccio, un abbraccio metaforico che è arrivato. No, senta, ma per cui non si vuole far consigliare da, da no, no, io sono l'agopuntura onestamente, da, dal signor Scilipoti, per esempio, no? Siccome ho tre figli, sì, ho intenzione di seguirli fino a che posso. È chiaro che consiglio a tutti quelli con metabolismo come il mio di abusare il meno possibile e di... Fare il sindaco così comunque è molto complicato. No, dal punto di vista per esempio personale, avere un certo fisico, io sono alto quasi 1,90 m, quindi mette paura, cioè il carisma solo, cioè, aiuta nel caso di aggressione che qualche volta può capitare, ma soprattutto è utilissimo durante le processioni. Non so se voi avete mai partecipato alla processione di San Nicola. No, no, però abbiamo visto l'immagine. È una processione immensa, dove se il sindaco non fosse visibile, sì, sarebbe... sparirebbe, insomma, in certo, la cittadinanza ne avrebbe sicuramente a che ridire. E dunque la troneggia ha la sua funzione. È così. Bene, la Zanzara 800 24 0024, che ha aperto quest'altra parte con il peso del signore Milano. Allora non voglio insistere molto, perché... Sempre notizie legate all'attualità politica, alla grande attualità politica. Allora, però, questa cosa di Penati è invece... Deflagrata. Non vogliamo ricominciare a parlare del mio metabolismo. No, no, preferisce no, il metabolismo a Penati. Certo, è meglio parlare di queste cose proprie che però, di quelle cose degli altri. Non mi nasconderò dietro la prescrizione. Lei l'ha capita questa cosa? Io non l'ho capita molto bene, devo dire la verità. Se uno vuole rinunciare alla prescrizione, lo fa attraverso i suoi avvocati, lo chiede. Lei è stato magistrato, è magistrato ancora. Sono in aspettativa, ma sono magistrato. Insomma, l'ha capita tecnicamente sta cosa? No, io non ho capito niente. È un fatto privato o un fatto politico? No, innanzitutto, allora, lui fa bene a rinunciare alla prescrizione. È giusto che il partito glielo chieda o no? Allora, nessuno, e meno che mai il partito, ha diritto di chiedere ad una persona sottoposta all'indagine, a un imputato, di rinunciare a un suo diritto processuale. Dunque, il Partito Democratico, chi nel Partito Democratico, tra cui il segretario, glielo ha chiesto, ha fatto male. Secondo me ha fatto male. Perché, una cosa disumana, l'aveva definita una volta, un po' disumana. Chiedere... Sì, nel senso che una persona che è sottoposta ad indagine, a parte il caso di malattia, vive probabilmente la condizione peggiore che un uomo possa sopportare. E dunque, in un contesto come quello, bisogna avere rispetto delle persone, bisogna evitare di interferire nella materia processuale che è strettamente connessa ai suoi diritti costituzionali. Io sono profondamente convinto di questa cosa, quindi credo che la questione se Penati debba o non debba rinunciare alla prescrizione vada lasciata alla decisione sua personale. Immagini che questa è una decisione che dal mio punto di vista non deve gestire neanche il suo difensore, cioè nel senso che deve essere una decisione di coscienza di una persona che ha timore che la prescrizione possa non consentire l'accertamento della sua innocenza. Quindi quando un uomo è talmente sicuro della sua innocenza da chiedere e da rinunciare alla prescrizione, evidentemente fa un gesto dove rischia, perché ogni processo ha la possibilità. Anche il diritto di non rischiare. Perché anche poi il processo non è che porta all'accertamento della verità, porta all'accertamento della verità processuale. Gli errori giudiziari sono una cosa oggettiva. Per cui è questo che mi... chiedo scusa a voi. Scusa, Parenzo, il punto è anche questo. Con voi due in particolare, con il sindaco Emiliano che... E allora qualcosa vuoi sostenere? Però io dico solo questo. Chapeau intanto a Penati. Penati ancora non ha rinunciato alla prescrizione. Non è un imputato qualunque. Se ho capito bene, ha annunciato che nel caso in cui il pubblico ministero concluda le indagini lasciando ferma l'imputazione che ha levato, perché il pubblico ministero sostiene che non ci sia la prescrizione avendo contestato, se ho capito bene, il reato di concussione. Viceversa, il giudice ha ritenuto che, sussistendo il reato di corruzione, la prescrizione sia stata... Ma comunque qui il fatto mi sembra un po' diverso. Penati dice: non mi nasconderò dietro la prescrizione. Quindi, la prescrizione è un fatto politico, perché la legge ex Cirielli approvata dalla maggioranza è una legge che è stata contestata dal Partito Democratico, che hanno sempre detto: Berlusconi, ti sei fatto le tue leggi ad personam per salvarti. Quindi siccome questa legge vale per tutti. Ma è ovvio che vale per... Quindi però, siccome Penati è un politico, dice: io non posso mettere in imbarazzo il mio partito che ha combattuto una battaglia contro una legge che ha definito ad personam, quindi non ne usufruirò. Ecco perché è una questione politica, e ha fatto benissimo Penati, non solo da uomo d'onore ma da uomo del Partito Democratico. D'onore bisogna vedere. No, una persona che lui non sedeva in Parlamento, ma se fosse stato in quel Parlamento avrebbe votato compatto con il suo gruppo contro la legge ex Cirielli. Quindi dice: io non posso utilizzare PD una legge che... Non è una legge che viola i diritti di qualcosa, è una legge ormai introdotta in cui lui è stato eletto, Penati è stato eletto con i voti del Partito Democratico. Io trovo questa cosa che presenta, che ha delle idee rispetto... Io sono d'accordo col sindaco di Emiliano quando dice che un partito fa male a chiedere, a interferire con i diritti della difesa di un anche di un suo iscritto, di un suo dirigente. Ma è un politico. Anche non è se ha combattuto contro quella legge. Quello è un altro discorso. Non puoi allora non si può dire a allora non si può accusare neanche Berlusconi, scusa. Infatti, io lo dico, chiedo al sindaco Emiliano. Allora, Non confondiamoci, se io sapendo di essere sottoposto ad un processo mi faccio in modo di farmi una legge per abbreviare la prescrizione, ecco, è diverso che uno che gli capita per caso. Ma è giusto usufruire però di una legge? Posso dire una cosa, sì. Siccome stiamo parlando di una persona, in questo caso Filippo Penati, che peraltro è una persona che io conosco. È un suo amico? No, amico tecnicamente no, l'ho incontrato poche volte, però è una persona che ha diritto a essere, come posso dire, rispettata e a gestire la sua fase processuale. Tanto lo rispetto che gli come dico, qualunque chapeau, altro imputato. Chapeau per lui per la scelta ha fatto un gesto, cioè ha dichiarato che nel caso in cui venga conclusa l'indagine, permanendo nei pubblici ministeri l'idea che il reato non sia prescritto, lui rinuncerà alla prescrizione. Questo è un dato di fatto, credo. Ma vogliamo provare a chiamarlo? Che dici? Beh, sarebbe interessante. Proviamo adesso, adesso ci fanno un numero di telefono in diretta. Il numero di telefono in diretta, quando sentiamo squillare tu il solito squillino, cerchiamo di intercettare il signor Penati. 800 24 00 24. Il partito fa bene ad espellerlo. Qualcuno ha parlato di espulsione. È assolutamente, come posso dire, prematuro discutere di una cosa del genere. Si espellono le persone, si sospendono dal partito quando si hanno dei momenti processuali che hanno una loro compiutezza. In questa fase siamo nella fase delle indagini preliminari. Peraltro, è sbagliato decidere ora l'espulsione, diciamo. Assolutamente, ma voglio dire, siamo in una fase prematura. Ma non le sembra un po', non dico staliniste, qualcuno all'interno del partito? Le faccio solo un nome. La signora Bindi. Sì. Cosa l'evoca la signora Bindi? Cioè, mi dico, per esempio, Bindi? Io di Rosi sono amico e è una persona che probabilmente, come molti democratici, ha il terrore, è giustificato, di essere equiparati come ad altri soggetti politici che sono sulla scena. Per esempio, Berlusconi. Paura può far fare anche dei conti sbagliati, nel senso che noi dobbiamo prima di tutto considerare, che l'ho già detto, dopo le malattie i processi sono le cose peggiori che possano capitare ad una persona. E dunque ci vuole rispetto e cautela nei confronti delle persone che sono sottoposte ad un processo. Lei ha detto, sarebbe come un'espressione molto forte, non nei pur parler nostri. Aveva usato una locuzione molto, molto efficace. Sarebbe come mettere un dito all'imputato. Se no, guardi, io non posso tornare a casa mia madre. La madre che controlla. Il PM nell'ordinanza ha scritto anche che Penati è un delinquente matricolato. A un certo punto, in un passaggio, un magistrato può giudicare solo i fatti e non le persone. Quindi, qualunque magistrato deve astenersi, dal mio punto di vista, dal dare qualificazioni alle persone. Quindi sbagliato. La qualità di delinquente matricolato la può attribuire il Padre Eterno al momento in cui sarà. Dunque sbagliato. Quindi chi scrive il magistrato si occupa di fatti, non di persone. Io ho fatto per tanti anni questo mestiere, non mi sono mai permesso di dare un giudizio di valore sugli imputati, sulle persone. Potrebbe essere, forse per lei andrebbe sanzionato una procedura, come si dice, una sanzione disciplinare? Ci sono dei precedenti. Se davvero il magistrato ha adoperato senza giustificazione e ha detto che quella persona è un delinquente matricolato, che peraltro è una definizione tecnica, cioè non significa niente. Sì, no, significa nulla. Onestamente mi pare un eccesso. Se poi questo eccesso sia sanzionabile dal punto di vista disciplinare, questo non ne sono sicurissimo, però si potrebbe la questione può essere posta. Però forte il sindaco Emiliano, eh? Cosa forte? No, è bravo, sentiamo, aspetta. Chi è? Il numero. Pronto? Sì? Non mi freghi stavolta. Perché sono qui. Questo è il cellulare di Penati che squilla. Forse il cellulare del signor Penati, stiamo facendo. È l'uomo del giorno. Sta facendo squillare, ma è difficile. Io vorrei farle anche. Vabbè, ma ci riproviamo più avanti. È il cellulare del signor Penati. Per avere solo un commento a caldo su questa sua scelta. Certo, dimissione del conto, dovrebbe dimettersi da consigliere regionale, Penati? Se una persona ritiene di essere ormai, per i fatti che sono accaduti, che gli vengono contestati, incompatibile con un ufficio pubblico, si deve dimettere. Se ritiene di essere innocente, e io ho capito che sta a lui, sbaglia il partito a chiedere di dimettersi da consigliere regionale? Il partito non può chiedere le dimissioni a un Ma che può un fare imputato. Un partito allora, scusi Emiliano? Perché se non io può... ho l'impressione che noi confondiamo il partito con una religione o con l'esercito della salvezza. Cioè un partito è un'associazione non riconosciuta, cioè un gruppo di persone che, avendo dei valori comuni, tende a realizzare questi valori comuni non come un gruppo gruppo militare o paramilitare. Mi permetto di dire che persino nelle famiglie, alle volte, che pure sono delle società naturali fondate sul matrimonio, così dice la Costituzione, il Codice Civile, non esiste la possibilità che un membro, per quanto autorevole della stessa famiglia, indichi ad altri delle condotte di vita. Ciascuno risponde delle proprie condotte, soprattutto delle condotte penalmente rilevanti. Però, come diceva Gigetto dell'Idroscalo, c'è delle regole della vita. Cioè, se uno si iscrive a un partito che ha nella legalità, infatti nelle regole dello statuto non c'è scritto che se sei indagato devi essere espulso dal partito, né che ti devi mettere da consigliere regionale. Scusami, ma anche la logica avrà i suoi diritti. Se tu combatti una battaglia contro l'ex Cirielli e poi sei il primo che utilizzi questa legge che hai definito ad personam perché sei incapace in un'inchiesta, di cui spero si liberi al più presto e ne esca pulito. Comunque, come Penati ha risolto il problema, ha chiesto lei cosa avrebbe che fatto? Si proceda. Lei fosse stato nella condizione di Penati, avrebbe rinunciato alla prescrizione? Se Penati dice di essere innocente, uno rinuncia facilmente alla prescrizione. Ma lei rinuncerebbe alla prescrizione? Beh, per tutelare il mio onore penso proprio di sì, perché posso essere sincero, ho già ripetuto che mentre si può sopportare, come posso dire, di stare in galera innocenti. Cioè, vuol dire, se non rinuncia alla prescrizione, questa è la domanda, significa che sotto sotto hai qualcosa da temere? Hai qualcosa da temere o no? Secondo me è un'assurdità. Io sono, siccome onestamente sono magistrato, ho esperienze positive con la magistratura e con il processo. Però io sa anche ho un'esperienza di vita, ho 52 anni, nel quale non mi è mai capitato di verificare che una persona del tutto innocente in una vicenda rischi di essere tritata nonostante la sua innocenza. Dunque, se come io penso vale per molti uomini pubblici, l'onore è il bene supremo, per me l'onore è il bene supremo, io credo che rinuncerei anch'io, perché in questa maniera, fidandomi della magistratura, otterrei giustizia. Che altrimenti verrebbe negata da però il partito, lei dice non glielo può chiedere, assolutamente no, i partiti non possono ingerire nei diritti della difesa. Senta, di una persona, il segretario è un po' azzoppato da questa vicenda, mi dica, segretario Bersani, siamo tutti azzoppati, tutti quelli che sono, però il segretario, adesso non nascondiamo, il segretario è ovvio che è un po' azzoppato, me lo dico. Ci siamo fatti male tutti, Bersani, che è il nostro riferimento nazionale, si è fatto male forse più degli altri, perché poi c'è questo legame molto forte tra Penati e Bersani, soprattutto. Devo per dire questo, che no? È capitato a molti, a me è capitato sia da magistrato che da sindaco, di scegliere delle persone e poi di verificare alla prova dei fatti che queste persone moralmente non erano all'altezza del compito che io avevo loro delegato. Certo, questo non è che la responsabilità penale si trasferisce. Quindi questi sono errori che bisogna riconoscere, ovviamente però sempre coerentemente con quello che dicevamo prima, cioè ammesso che Penati sia colpevole di qualche cosa. Certo, ma non poteva, secondo lei poteva dal non sapere dal punto di vista di immagine, poteva non sapere che Penati, sempre se fossero provate Bersani. Guardi, io sono uno di quelli che con riferimento a Berlusconi ha sempre specificato a tutti quelli che me l'hanno chiesto che nelle indagini penali il ragionamento non poteva non sapere non esiste dal punto di vista politico, cioè non esiste, perché non c'è nessun tribunale che ti condanna perché non qualche magistrato non però nelle sentenze lo ha scritto, insomma, non leggi Penati e vedi Bersani. Questa è una insensatezza assoluta dal mio punto di vista, anche perché noi stiamo parlando però della lei dice responsabilità che politicamente comunque il segretario è un po' azzoppato, diciamo la verità, ho detto tutto il partito viene colpito da queste fatti. E il nocchiero, lei dice? È ovvio che subisce, e credo che lo stesso Bersani sappia. Nella corsa alla leadership futura del paese, prima del partito, alle primarie, eccetera, è un po' questa cosa, è rilevante. Non credo per però che sia esiziale, cioè non sia mortale. Cioè non è morto Bersani, assolutamente, per politicamente no, perché non è sarebbe morto. Pazzesco che il segretario di un partito nato nel 2007 debba rispondere dei fatti penali compiuti da una persona che è stata. Ma è uno di quelli che gli ha fatto vincere le primarie, Emiliano. È uno dei Penati. Beh, uno di io mi posso permettere di dire una cosa: Bersani le primarie se le ha vinte da solo, che Penati abbia avuto, diciamo, un ruolo decisivo nelle primarie di Bersani non mi sembra. Bersani aveva vinto prima di cominciare e la competizione ha vinto. Io non l'ho neanche votato perché alle primarie nazionali io non ho votato né uno né l'altro, ho fatto una mozione regionale e non ha votato perché non ero contrario. Ha sentito Di Pietro, dice che il Partito Democratico deve fare pulizia al suo interno, un po' un avvoltoio da questo punto di vista. Diciamo che non si sta comportando bene, Antonio. Un po' no, sta là come approfitta. Io lo devo incontrare fra fra un paio di giorni a Vasco. Profili là come un appoltoio dietro. Gli devo dire, Antonio, Antonio, e cerchiamo di comportarci correttamente. Di non fare i... si chiama giocare a frega compagno. Giocare a frega compagno significa tendenzialmente approfittare delle incertezze degli amici, di quelli che giocano con te, per tentare di avere dei vantaggi. Io ho giocato tanti anni a basket, può capitare che anche un compagno di squadra speri che tu giochi male per poterti sostituire. Questo non è il migliore degli atteggiamenti, perché non favorisce la squadra. Antonio in questo momento non sta favorendo il centro-sinistra, sta favorendo il centro-destra, ragionando in questa maniera. Quindi gioca a frega compagno. Gioca a frega compagno. Pier da Torino, buonasera signor Pier, dica. Buonasera. Dica. Volevo parlare proprio di Penati. Secondo me la questione è riconducibile a questo. Il codice etico non è il codice penale. Essenzialmente ha fatto molto bene Penati, o almeno farà molto bene Penati quando gli diranno sei stato accusato di questo e questo, difenditi, e poi lui dice ok, non usufruirò della prescrizione. Questa è una cosa molto bella, perché vuol dire che lui ci tiene molto a essere una persona candida, cristallina, e dire ok, guardate elettori, la prossima volta che mi presento io ho subito una serie di indagini eccetera, poi ne sono venuto fuori pulito. Come me, anche tutti gli altri politici dovrebbero fare così. Secondo me è un bellissimo atteggiamento questo. Se dovesse rinunciare alla prescrizione. Però secondo me anche se uno, non è che se uno non rinuncia alla prescrizione significa che è colpevole o ha qualcosa da nascondere. No, stiamo dicendo questo. Guardate che la prescrizione, io dico, le voglio dire la prescrizione, lasciamo perdere i tempi, la legge, siamo d'accordo. È una garanzia che la giustizia ti colpisca al momento giusto, nei tempi giusti. Poi lasciamo perdere le scorciatoie, le legge fatta per questo. Ma la prescrizione non è una cosa folle, è una cosa per cui Penati dovrebbe dire quello che in parte ha già detto: non usufruirò della ex Cirielli, cioè della prescrizione, legge voluta dal governo Berlusconi, perché è una legge ad personam che il mio partito ha contrastato. Questo è quello che dovrebbe dire, che in parte ha già detto. No, per una coerenza politica che sta dimostrando, però bisogna però dare atto. Mi posso permettermi di interrompere? Cioè, noi adesso abbiamo una vicenda che più o meno funziona in questa maniera: che il partito della persona che in questo momento... Ma Bersani poteva non sapere, quello dice Pasquino, dice nel PD non potevano non sapere. Signor Pasquino, politologo vicino di AS, di Bologna, certo. Dice oggi fa carriera e viene valorizzato chi dimostra di riuscire ad avere risorse per campagne elettorali e attività politica, e questo forse lei è d'accordo. E i rapporti che aveva, cioè Penati, la sua capacità di organizzare campagne elettorali e di trovare persone che finanziavano l'attività del partito era un elemento importante, per questo fu scelto da Bersani. Insomma è un po' azzoppato Bersani da questa vicenda, non c'è dubbio. In tutta sincerità continuo a dire che è azzoppato il partito nel suo complesso. Cioè, subisce un colpo, però mettiamo un po' le cose in ordine. I fatti sono avvenuti anni fa, quando il PD non esisteva. Sono avvenuti quando c'era un altro partito. Riguarda le persone che poi sono andate a fine PD. Però, dopodiché, nel PD, guardi, è arrivato anche di peggio. C'erano spogliarelliste, mi pare. Un segretario di sezione che faceva lo spogliarello. Meno male. C'è stato anche qualcuno che avrà commesso qualche reato. Nel PD si sono iscritte milioni di persone. Pure in Puglia c'erano. Anche in Puglia sono stati dei problemi. Anche se lei, devo dire, ha fatto un'intervista splendida a Tedesco. Signor Tedesco. Però dico, ci sono problemi dovunque. Ora, che Bersani debba essere responsabile di qualunque evento che risponde, che capiti a qualunque. Ma no, qualunque, è un suo collaboratore. È un suo collaboratore. Fino alla fine del 2010 è stato il principale collaboratore di Bersani. Cioè, non è il. Non allora, è la il prossima volta gli indaghiamo, prima di dargli un incarico, li sottoponiamo ad un'indagine preventiva. No, ma perché non dico niente? Io sto dicendo semplicemente che non c'è dubbio che, essendo stato il principale collaboratore di Bersani, il segretario Bersani ne esce colpito, azzoppato, ne esce ridimensionato. Guardate, basta pochissimo per far male a un personaggio pubblico. No, poi giusto o meno, non lo so, però basta è la realtà. Pochissimo, anche se è del tutto innocente. Vabbè, andiamo sotto ogni aspetto. Un altro ascoltatore, va. Raffaella, no, Luca da Milano. Luca da Milano, sì, buonasera, Luca. Buonasera. Luca, dica. Sì. Volevo riferirmi appunto alla vicenda Penati. Sì, veloce, Ma se un processo già è dato per certo che non può condannare qualcuno, perché lo si fa? Poi parliamo di sprechi. Lei ha ragione. Chi paga i soldi del processo? No, lei ha ragione. Siccome si può rinunciare alla prescrizione, Però ce lo chiediamo prima con Emiliano, che è magistrato, anche se in aspettativa. Cioè, in teoria il PM potrebbe chiudere subito. No, il PM insiste su una imputazione più grave, sì, di quella di corruzione, che potrebbe in teoria non far decorrere la prescrizione. C'è un contrasto tra il PM e il giudice, ma i processi li definiscono i giudici, non i PM. Senta, una cosa su Renzi, Emiliano. Insomma, lei pure non battono. Siete partiti insieme, adesso non vi sentite più. Matteo è sparito. Cioè, è sparito. Qua ieri. Sì, non ci siamo neanche parlati. Da quando è che non vi sentite? Dalla Leopolda, praticamente. Tramonta l'asse. Emiliano Renzi. Qui, cioè, il numero ce l'ha ancora, magari ha cambiato numero. Aspetta, no, vedete che lo verifichiamo. Aspetta, cellulare di Renzi. Il numero dunque, ce l'ho. Io ho il diretto che è un 33. Siamo in diretta? Sì. Ah, forse è meglio non darlo. No, no, diretta. Nel senso che lui ha organizzato. Non mi ha più chiamato. Ha organizzato un bellissimo evento al quale io, peraltro, avevo sperato potesse partecipare anche Bersani. Bersani, come è noto, non vuole partecipare. Ma lei lo capisce quello che vuole fare da grande, Renzi? Non è chiarissimo, anche non perché lui fa il sindaco da 2 anni. Il mandato del sindaco dura 5. Però adesso fa questo incontro presentando i 100 punti per l'Italia. Sì, benissimo. Perché uno presenta io 100 non punti per l'Italia che se è il sindaco di Firenze? Quello che noi stiamo patendo un pochino in Puglia. Noi in Puglia abbiamo un grande leader che è Vendola, che però anziché occuparsi del mandato che gli abbiamo dato, fare il presidente della regione, si occupa dell'Italia. Ora, questo va benissimo. L'Italia è anche riduttivo, diciamo. Dico, si occupa del mondo. Di grandi. Lei lo capisce quando parla Vendola, per esempio? Beh, io più che altro ormai lo intuisco, che è come la mamma, quando lo guardo intuisco di che cosa... Però è difficile ogni tanto capire questo mio cuore, questo mio cuore... Come si dice, qualcuno dice, come posso dire, che ha una capacità straordinaria di dire benissimo delle cose che nessuno capisce. Però devo anche dire che... Non so se ve l'ho mai raccontato questo fatto. Una volta siamo andati assieme ad Assisi. Ce lo dice dopo la pubblicità. Perfetto. Dopo la pubblicità, poi chiudiamo. Il racconto chiudiamo con di Emiliano su 800 24 00 24. Fra poco riprendiamo anche con voi, naturalmente, la Zanzara. Ma non sei più canterino, come mai? Sei esaurita la tua vena, manca ancora un'ora. Forse ancora non ti ricordi, questa trasmissione è di una lunghezza spaventosa. Ma andrebbe. No, l'orario è ottimo, 18:30. Attenzione. Penati. Non con la musica di quando parla, se dovesse mai rispondere, quello sarebbe bene. Siamo seri, siamo persone per bene. È caduta la linea. Mi posso permettere di dire una cosa? Chiamare al telefono in diretta radio una persona nella situazione dicendogli che siamo in diretta è penalti, no, è pesante, vabbè, ma mica in galera. Noi abbiamo chiamato Papa prima che entrassero i carabinieri. Sì, presidente Penati? Sì. Sì, è la Zanzara, Radio 24. Radio 24, buonasera. In diretta. No, niente, la ringrazio. Prego, grazie. Cioè, onestamente, affrontare un discorso complicato di sorpresa. Sì, però allora, abbiamo detto siamo in diretta, non è che abbiamo detto è la stessa cosa. No, però la ragione è un mio punto di vista. No, certo, però ve lo dico con fraterna amicizia. Lo sa che le dico una cosa. Che qualche volta concordare le cose prima, a parte che in questo caso sarebbe impossibile, perché evidentemente se non c'è una riga di Penati, se no comunicato ufficiale, evidente che non rilascia interviste. L'unico modo per, come dire, no, cercare allora, io però non è che stiamo cercando di incriminarlo, di metterlo al muro. Anzi io ho detto potrebbe che persino me... avere un'occasione per chiedere. Ma no, per dire semplicemente no sulla cosa della prescrizione, mica sul processo. Però io mi riferisco all'esperienza personale, professionale che ho fatto in queste situazioni. È la peggiore delle situazioni umane che si possa immaginare. Per esempio, anche nei confronti di Berlusconi, credo di non avere mai toccato argomenti di questo genere nei confronti di chiunque sia sottoposto ad un'indagine. Io sono sempre di una cautela eccezionale, proprio perché ho fatto l'accusatore di professione. Ma per esempio su Berlusconi, la vicenda Rubbia eccetera, come la vede dall'esterno da magistrato? Ma credo che la Procura di Milano abbia impostato dal punto di vista tecnico-giuridico in modo corretto la vicenda. Sì, dal punto di vista... Cioè non è competenza del Tribunale dei Ministri e credo assolutamente che si tratti di un... Cioè, se ecco, mi pare che ne abbiamo già parlato. Se io chiamo... minorile, secondo lei è possibile una cosa del genere? Un'accusa di questo tipo? Ma credo che l'accusa più importante lì sia la concussione nei confronti della questione di Milano. Vedremo. Io l'ho sostenuto dal primo giorno. Allora, io stavo dicendo che una volta ero lì a cena con lui, avevamo bevuto una bottiglia di vino insieme, ci chiamano, quindi eravamo anche un po' brilli, ci chiamano dei pugliesi che stavano lì a suonare. Sì. sì. Lui fa un discorso bellissimo che io avevo sentito 100 volte, quindi già sapeva come non c'era nessuna ragione, e quando lui è sceso dal palco io avevo le lacrime agli occhi e ho detto: ma possibile che io sono così scemo che tu ripeti per la 200ª volta sempre lo stesso discorso e tu mi fai commuovere tutte e 200 volte? Beh, vuol dire che è bravo allora. È bravissimo, però non si capisce niente. Non è che non si capisce niente. Beh, è troppo immaginifico. Diciamo che alla fine del suo discorso le istruzioni su quello che c'è da fare di concreto non sono chiare. Cosa? Questo per, questo per un politico non è proprio il massimo, cioè. Però ti fa sognare. Però ti fa sognare. Però passi 10 minuti bellissimo. Perché vieni al cinema e vendola è come andare al cinema. È come andare al cinema. È come andare a teatro. È come andare a teatro. Vendola è come andare a teatro. Questa è magnifica. Vabbè. Questa cosa è magnifica. Beh, ma il teatro e la politica sono molto Renzi, parenti. Però il principale difetto di Renzi, con le belle parole non si cambia. Il principale difetto di Renzi è che non si fida di nessuno. Ha questo speciale rapporto con lo specchio ed è convinto che l'unico che come posso dire sia che? Cioè, l'unico col quale può confrontarsi è se stesso. Questo è sbagliato. Però il politico deve essere anche uno che ha, no, che ha... però è troppo autoreferenziale, tutto a suo tempo. È troppo autoreferenziale. Oggi è pronto per fare leader nazionale? Ma secondo me no. No, non è pronto. Non è pronto. Secondo me no, perché... perché non sa fare squadra? No. Adesso, credetemi, è un ragazzo molto brillante. Sì. Che però deve ancora dimostrare a se stesso e agli altri di saper superare la prova del governo. Governare se stessi, le proprie sensazioni, sì, i propri sentimenti, il rapporto con gli altri, è una cosa che si fa con un po' di calma. E lo dico qui a Vedrò, dove sono tutti convinti che l'unico valore della vita sia la gioventù. Non è così semplice. È un po' più complicata la vita. Sì, beh, anche se la gioventù ha una energia straordinaria che Matteo ha. Ma io pure, se il giovanilismo non è che... non è il giovanilismo, è il ricambio della classe dirigente, che è una cosa un po' diversa, no? Comunque, Matteo ha grandi energie. Ma si candiderà alle primarie? Matteo? Ho l'impressione di sì, da quello che leggo. Cioè, si candiderà sicuramente. E questo, diciamo, è da valutare l'impatto di una sua decisione del genere, perché se le primarie diventano un gioco a 2, a 3 o a 4 candidati, l'esito può cambiare radicalmente. Assolutamente. Grazie al sindaco di Bari, Michele Emiliano. Due belle bastonate, però, Renzi e a Vendola. Mamma mia, Vendola è come andare a teatro. Grandissimo. Che se magna stasera, Emiliano? No, spero che si mangi qualche cosa di decente, perché qui a Vedrò l'unico difetto vero è la cucina. No, ma perché? Beh, così, io non lo so, io mangio poco. L'unico difetto è la cucina. Quindi approvano. Quindi dietro. Lei stasera cosa vorrebbe mangiare, ad esempio? Io vorrei mangiare un piatto di pasta come si deve. 80 grammi, porzione sirchia, però. Io arrivo a 100 perché 80 svengo. Pubblicità, se c'è, pubblicità, anzi c'è sicuramente. Eccoci, proseguiamo con la zanzara. Guido da Padova, se non è esploso nel frattempo. Guido, buonasera. Poi abbiamo Gaetano da Milano, Gabriele da Brescia, Raffaella, provincia di Alessandria, Luciano da Milano e altri ancora. Guido da zanzara. Abbiamo ancora tanta roba, tanta gente. Grazie ai nostri magnifici tecnici che ci hanno assistito in questi 2 giorni e che adesso ci hanno rifornito anche di bicchieri d'acqua. Che stai facendo? Una cosa vergognosa. Cioè, i gargarismi alla radio in diretta. Ma è la zanzara, Parenzo. Guido, no, dica. Scusa, Guido, gola, dica. Volevo solo dire, ho sentito la settimana scorsa, nei giorni scorsi, molto spesso degli interventi piuttosto duri nei confronti della Began. E mi sembrava... Ma chi l'ha fatti in degli interventi duri sulla Began? Ma lei se li ha sognati? Ma quando mai? Quello che volevo dire è che mi sembrava un po' maschilista l'impronta. Perché in altri casi, come per esempio Sgarbi, che ha fatto la valletta da Costanzo per anni, nessuno va mai a dire è diventato famoso per quello. Ecco, mi sembrava un po' di misoginia in questa trasmissione. Ma guardi, se misoginia qui, no, proprio no. Grazie. Gaetano da Milano, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. La chiamavo perché ho un dubbio su un principio, diciamo, della nostra legislazione, che è quello della retroattività. Perché vedo che in questi giorni i nostri politici si sono fatti moltissimi scrupoli sull'applicare il principio di retroattività alla tassazione dei capitali scudati, laddove non si sono fatti nessuno scrupolo dal rompere un contratto, diciamo, con i propri cittadini che avevano versato dei contributi volontari per riscattare gli anni degli universitari. Niente, era solo una considerazione. Sono due cose un po' diverse. Le faccio un esempio. L'abbiamo già spiegato 1000 volte. Secondo me sono due cose molto diverse, però non voglio insistere su questo. Secondo me rimettere in questione i soldi che uno ha pagato per lo scudo fiscale è una rottura di un patto che c'è stato, un patto che può essere stato anche scellerato, eccetera. La questione dell'età pensionabile, di cosa può essere riscattato, cosa no, è una cosa che si può tranquillamente modificare. Certo, si può modificare anche la prima cosa, dicendo invece del 5 devi pagare il 10, e dunque si possono reinterpellare queste persone. Il denominatore comune è che tutti devono fare dei sacrifici. Chi ha più soldi deve fare più sacrifici. E quindi il denominatore comune di queste due cose... Fare una patrimoniale. Fai una patrimoniale. Allora, il denominatore comune è che chi è un ladro e ha riportato in Italia i capitali anche... Ho capito, ma ha già pagato. Sì, paga qualcosina in più. Ma... paga qualcosina perché quei soldi ci sono. Chi sul fronte... Ma può darsi anche che non ci sono più, eh? Sul fronte... Beh, grave, gravissimo. Se così sarebbe gravissimo. Non ci sono più, nel senso che sono stati acquistati immobili, non lo so, con quei soldi riportati allora in Italia. Passiamo gli immobili. Vabbè, in più. Ma ho capito. Ci sono tante misure. E anche chi... E anche sulle pensioni bisogna fare dei sacrifici e tutti devono farli. Cioè, purtroppo è questo. Grazie Gaetano, vuole aggiungere qualcosa? Sì, facciamo che lei facciamo un contratto. Lei mi dà dei soldi e io le garantisco dei servizi dati in un certo modo. A un certo punto io unilateralmente decido che quei servizi li do in una maniera diversa. Cosa pensa di lei? Cosa pensa lei di me? Mi fa causa. Ma sono così, ma sì, cioè, vabbè, sono... niente, era solo questa considerazione. La ringrazio. Grazie Gabriele da Brescia. Buonasera. Senta, io chiamo da Brescia, sono un autista di autobus. Il nostro settore è un po' penalizzato, nel senso che noi lavoriamo 6 giorni a settimana, stiamo in ballo 10 ore al giorno, cioè toccare ancora le pensioni, dopo che noi abbiamo iniziato presto a lavorare, non riusciamo mai ad andare in pensione, 6 giorni a settimana lavoriamo 5 anni in più di un normale operaio. Allora? E poi la Lega continua a dire dobbiamo toccare le pensioni di chi non ha mai pagato, di reversibilità, ma non l'hanno fatto. E mi risulta che i politici conviventi prendano le reversibilità, la convivente del politico prende la reversibilità. Che c'entra la convivente del politico? Non è che tutti i problemi dell'Italia sono riferiti al politico. Cioè, sì, però che hanno un regime speciale, e questo è vero. Sì, ma sul hanno un regime speciale. Sui vitalizi, sì, ma... forse anche sulla... Adesso io questo del taglio non lo so, ma se è vero che ce l'hanno sulla reversibilità, hanno un regime speciale più, e non se ne capisce la ragione. Per me non si capisce nemmeno il vitalizio. Grazie, Gabriele. Raffaella, provincia di Alessandria, buonasera. Salve, buonasera, sono un buonasera, medico. Dica. E ciao, ho Raffaella. Pagato regolarmente, ovviamente, il riscatto della laurea della specialità anni fa. Quanti anni ha lei? Scusi, signora Raffaella, 50, so che non si chiede, però... 50 compiuti 5. Oggi. Sì, allora? Auguri! Auguri, signora Raffaella! Grazie mille. E niente, mi ero fatta questa domanda così, se c'è un rapporto fra il numero di laureati che siedono in Parlamento e la scelta di questa norma piuttosto che un'altra per cercare di arrivare a un risparmio che si deve fare. Cioè, mi sembrava più giusto piuttosto aumentare subito l'età pensionabile, perché in effetti chi ha versato cioè preferivo che si decidesse subito anche per le donne di arrivare a 65 anni senza toccare il discorso dei contributi che sono stati versati, vero volontariamente, ma comunque sono stati versati allo Stato e hanno coperto i debiti ora dell'INPDAP e in passato dell'INPS. Ecco, questo tutto qua, volevo dire questo. Non ho capito cosa voleva dire però esattamente, scusi. No, volevo me l'ho chiesta così, in maniera ironica, se c'era un rapporto tra il numero dei laureati che siedono in Parlamento, che non mi risulta altissimo. Guardi, Raffaella, non credo proprio. Guardi, non credo proprio che, guardando al numero di laureati, secondo lei, basso in Parlamento, allora... E quindi, così, non ci danneggiamo noi ulteriormente, però. Norberto D'Alecco, buonasera. Buonasera. Norberto è un nome importante, io... Norberto Bobbi. Pronto? Sì, vabbè. Dica. Sì, no, dicevo, vorrei cambiare un po' il tono perché secondo me sono incommentabili le cose italiane e invece partire da Buffett o Buffett, adesso la pronuncia corretta. No, Warren Buffett. Non... Warren Buffett, vuole ammazzare la trasmissione, sì, esatto. Vuole distruggere lei la trasmissione. Lei è stato mandato da qualcuno. Allora, no, io sto pensando, cosa ci sto vuole pensando... dire? Ci riassuma senza fare cita. Che cosa ci vuole dire, signor Norberto? Difatti, volevo parlare di una sorta di illuminismo nuovo che traspare da certe dichiarazioni di alcuni ricchi. Oggi mi pare di aver letto che c'è anche un gruppo di ricchi tedeschi che ha fatto un cartello in cui chiedono di poter pagare di più, nel senso che forse si sono resi conto, come nel Medioevo, come qualche centinaio di anni fa, i ministri si sono resi conto che non si poteva continuare ad allargare il gap tra chi non conosceva e chi conosceva, e che bisognava aiutare quelli che stavano peggio veramente, perché prima guardi, o poi Lamberto, se no... a me quando una persona ultra miliardaria o quello che è ultra milionario, siccome non considero i soldi lo sterco del diavolo né l'arricchimento qualcosa di negativo, bravo, certo, quando uno mi dice tassate noi, la prima cosa che penso è che non ci credo. Secondo, non credo che serva a nulla in generale la tassazione, cioè si invocano sempre nuove tasse, prendete da me, perché uno è ultra miliardario, già viene tassato e paga le tasse, perché ci vuole un ulteriore prelievo? Cioè, non lo capisco, me lo spieghi lei perché trova invece questa cosa nobile, caro Norberto? Mia madre con l'Alzheimer, che grazie alla pensione di reversibilità riesce a pagarsi il posto dove sta perché non è capace di intendere di volere, se gli tolgono la pensione di reversibilità, io che sono monoreddito e ho due figli e una moglie a carico, devo pagare la retta della sì, ma guardi, casa non l'hanno tolta, non l'hanno tolta, ma cosa... devono essere tassati di più. Ma sono già tassati, sono già tassati. Ma cos'è, succede così? Succede quello che è successo in Francia. Sì. Arrivano le ghigliottine. Sì, le ghigliottine. Beh, arrivano. Ghigliottine. A parte che così, la pensione di reversibilità non l'hanno tolta. E secondo, lei dice i ricchi perché non vengono tassati? Ma vengono già tassati. Ho capito, però adesso senza essere demagogici, se il signor Warren Buffett e l'ingegner De Benedetti dicono prendete da noi, perché comunque anche se ci togliete un altro po' continuiamo a stare ultra bene. Vabbè, ma che vuol super dire bene qua? Ma non c'è limite a nulla, un atto allora, di responsabilità. Ma quale atto di responsabilità? Dire, non è che gli porti, ma non è che gli stai portando via chissà che cosa, non è che rinunceranno a qualche giorno, è una perversione. Warren Buffett continuerà ad andare tranquillamente in vacanza, ma anche se lo tassano secondo un questo po' di principio, più, no? Lo champagnino continuerà a berlo, ma comunque è un principio perverso, ci vogliono cose strutturali, ma le paga già le tasse, ho capito. Non credo in questo paese, credo. Perché forse risiede anche lui, come il signor Marchionne, in forse. Svizzera. Beh, c'era la tassazione svizzera. Vabbè, comunque, non però fatto sta, se dicono questo, io sono comunque sereno che loro lo champagnino continueranno a berlo. Ma cosa c'è da questa demagogia? Traffico. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, ma perché i piccioni fanno poco? Questo non riesco, no, perché riascoltando ci sono delle piccole incongruenze. I piccioni che fanno. Francesco da Perugia, buonasera, sempre 800 24 24, qui alla Zanzara, sono le 20:17, dica. Siamo stati a Perugia, buonasera. Bello. Senta, io resto con un dubbio, dato che l'ipotesi del cambio della manovra era di fare saldi invariati. Sì, vabbè, infatti su quello ci sono dei grandi dubbi da parte dei tecnici, non solo dei tecnici. Esatto, c'è un qualcosa che ha sostituito qualcos'altro, diciamo, nel conto che fa il governo, poi lo contestano, ma... non è che i miei 15 mesi da ufficiale dell'esercito come leva hanno sostituito i soldi che non voleva versare Ibrahimovic o Totti? Vabbè, questo qua. Perché Ibrahimovic e Totti avrebbero versato. Tommasi ha già detto che la prossima settimana giocano. Per cui sembra che li hanno accontentati, perché senza calcio. Non penso che abbiano accontentato i calciatori. Ma senza contributi, sì. Sembra. Guardi Francesco, non credo che abbiano accontentato i calciatori, questa mi sembra un'ipotesi assolutamente ridicola, anzi no, le intenzioni di Calderoli erano quelle di tasserli ulteriormente. Però non li tasseranno ulteriormente e giocheranno. Sì, ma non faccia questi calcoli, credo che lei faccia una battuta, perché se pensa che hanno tolto la tassa di solidarietà per consentire ai giocatori di scendere in campo il 10 o l'11 di settembre, mi sembra una follia. Punto e basta. Grazie Francesco. Marco da Napoli, buonasera. Marco? Niente, Riccardo da Rovigo. Marco, dica. Ecco. Sì, dica. Niente? Sì. Niente, Fabio. Scusami, ha notato che lei effettivamente i cacciatori, i miliardari, quelli che hanno riportato i capitali con lo scudo fiscale, e invece li sono antipatici, pensionati, quelli che stavano andare in pensione. Lei dice delle cose che non saranno in cielo né in terra, Marco. Comunque, insomma, è libero di dirle, no, quella zanzara. Lei sinceramente scatta proprio. Ma no, a me dà fastidio la demagogia fino a se stessa, per cui non è questione di a me. Cioè, gli evasori, figuri se mi possono stare simpatici gli evasori, cioè, no? O chi ha riportato i soldi in Italia. Dopodiché sono delle persone che hanno riportato i soldi in Italia con un accordo con lo Stato. A me sembra assurdo rivedere quel tipo di accordo. Ma questo è una mia opinione. Non è che ce l'ho con i pensionati. Perché dice che ce l'ho con i pensionati? Di che sta parlando? Si figuri se ce l'ho con i pensionati. Ma che significa che ce l'ho con i pensionati? Non ho mai detto nulla contro in generale i pensionati. C'è pure mia nonna pensionata, figuriamoci un po'. Che c'entra? Anzi, sono troppo basse le pensioni, come dire, le pensioni minime. Però va alzata l'età pensionabile, su questo non c'è, sono due temi diversi. Cioè essere, alzare l'età pensionabile non significa essere contro i pensionati. Su questo lei ha ragione, direttorissimo. Altra cosa è il signor Warren Buffett e il signor De Benedetti che dicono... Vabbè, Marco, stessa. Allora? E allora niente, chiaramente era una sintesi, mica volevo completare le tesi di strumenti. Però lei comunque effettivamente difende certe categorie e non altre. Ma io non difendo nessuna categoria, ma è una cosa pazzesca. Dove andiamo? Vabbè, grazie. Andiamo a Milano. Luciano, buonasera. Buonasera, caro Cruciani. Tra l'altro c'è un emendamento della Lega, contributo di solidarietà per tutti gli sportivi professionisti, non solo i calciatori, compresi allenatori, direttori tecnici sportivi e preparatori atletici. Ma perché un emendamento ad un emendamento alla manovra della Lega a firma di Massimo Garavaglia e Gianvittore Vaccaro, specificando che la supertassa si applica anche alle retribuzioni ai corrispettivi nonché alle premialità e che tali oneri non sono traslabili né direttamente né indirettamente ai datori di lavoro, cioè alle società sportive. Cioè praticamente hanno introdotto la resta la supertassa sui calciatori allargata agli sportivi, ma è una follia totale, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma come si fa? Perché è una norma ad personam per gli sportivi? Sì, questo, facessero in base al reddito, perché proprio specificava? Non penso che sia neanche possibile farlo, non lo so. Ma non lo so, si può specificare, ci voglio tassare quello che ha i calzoni corti con... dovrebbe chiedere al signor Giannino contributo non solo ai calciatori ma agli sportivi. Questo è un emendamento della Lega. Comunque Luciano da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, io non voglio fare nessuna demagogia, voglio solo parlare di fatti e di numeri, perché mi sembra che si stia facendo veramente tante parole e non si dicono le cose. 15 giorni fa io mi sono scoperto uno dei ricchi d'Italia, perché faccio parte dello 0,9% degli italiani che dichiarano, perché sono dipendente, 140.000 euro di redditi, sui quali vado a pagare quasi 50% tra tasse, anzi di più tra tasse, benissimo. Mi hanno messo l'extra tasse, sono stato felice per un semplice motivo, perché il signor Berlusconi, che guadagna 200 milioni di euro, al 12,5% tassato, forse gliel'hanno portato al 20%, ma con quell'extra tax dell'altro 10% si sarebbe solamente in piccolo avvicinato a quello che pago io normalmente. Dopo 15 giorni ho scoperto che mi hanno tolto i 3.000 euro che dovevo pagare e mi fanno pagare centinaia di migliaia di euro in più, perché io le faccio qualche conto di che cosa significa il discorso della pensione. Io ho riscattato 5 anni di università, ho pagato decine di milioni. 5 anni che mi portano in avanti significa che lo Stato mi ha prelevato in più dai 250 ai 300 mila euro, a me personalmente in più. Allora... E durante quel periodo di 5 anni io vado a pagare altrettanti 30, 40, 50 mila euro all'anno in più che non mi vengono conteggiate sul monte della pensione. Luciano, però adesso non mi faccia i conti sono conti dell'ingiustizia, perché io pago centinaia di migliaia di euro e il signor Berlusconi si è tolta la extra tassa, non paga nulla. Ma è incazzato, ma ha ragione a essere incazzato questo bravo contribuente. Ha ragione lei a essere incazzato nero, perché lei è dice così. Scusi, il signor Berlusconi non paga niente, io pago centinaia di migliaia di euro e come sono uno dei niente? Più ricchi d'Italia, gli evasori che cosa pagano? Ha ragione. Ma perché non paga niente? Perché Berlusconi non paga niente? Scusi. perché gli hanno tolto la super, l'extra tassa, e perché paga al massimo adesso il 20%, quando io sinora ho pagato come il 50%. Paga il 20%? Massimo il 20% in più rispetto all'aliquota che già paga, questo sta dicendo. Vabbè, ma sì, paga le tasse come previsto. Invece, no, invece questo povero no, Cristo che guadagna... No, lui ha dividendi sulle azioni, lui ha dividendi sulle azioni, non ha solamente il reddito IRPEF. Va bene, io ho il reddito IRPEF, lui ha dividendi sulle azioni. Questo contribuente fiscale che guadagna... Sa cosa significa? Io non ce l'ho. Luciano, scusi, non ho capito bene. Lei a parte che la supertassa non c'è più, dunque lei anziché supertassa. Ma certo, supertassa, io perdo, intanto, io guadagno 3.000 euro e ne perdo 300.000. Facci il conto lei. Sei anni per 50.000 euro sono 300.000. Va bene? Capito, non c'è più questa tassa, Luciano, non c'è più la tassa. No, la tassa, io ho detto, ho perso 3.000, cioè guadagno 3.000 euro perché non c'è la supertassa. Io pagavo 3.000 euro. Sì. Trattenendomi 5 anni a 60.000 euro sono 300.000 euro. Ma come? Ma le trattengo su che cosa? In più in quei 5 anni io vado a pagare altri 30-40.000 euro all'anno di contributi che non mi vengono conteggiati perché io sono già al massimo. Ma lei che sta... Non ho... Tu hai capito? Ma certo, facci conti. Sì, ho capito e ha anche ragione. Facci conti. Ho capito che ha ragione, perché se chi guadagna 140.000 euro all'anno è una dica com'è, una cosa gravissima. E ha ragione, perché il cosiddetto ceto medio produttivo, qual è questo signore, quale possiamo essere noi, 140.000 euro lordi all'anno, alla fine siamo noi quelli che pagano il prezzo più alto, perché invece altri attraverso dividendi, azioni e operazioni finanziarie e cioè, guadagnano, non arrivano a pagare quello che paghiamo noi di tasse. Ha ragione certo. Questo signore, bravo dottor Lotti. Cruciani, dottor Cruciani, non è un glielo problema, dica, glielo dica lei al dottor Cruciani, glielo spieghi lei. Ma dottor Cruciani, io le voglio, mi faccia parlare, non ho capito favore. Proprio il problema. Non ho capito. No, problema, no, io glielo voglio far capire, per favore, glielo voglio far capire, perché non è un problema che io pago di più e Berlusconi paga di meno. Ma lei sta parlando del riscatto degli anni dell'università, scusi, sta parlando di una roba. Sì, il riscatto degli anni di università. Ma non è un diritto riscattare gli anni dell'università. Ma ho pagato! Ha pagato benissimo. Ho pagato decine di migliaia di milioni. Ho pagato. Me ne trattengono. Come se ho pagato? No, ma ha pagato il riscatto e credo da quello che leggo che avendo pagato il riscatto, questo il riscatto pagato vale, abbiamo letto prima, vale nel computo della pensione. Non valgono gli anni, ma vale il computo della, nel computo della pensione. Ma lui prima parlava della tassazione anche comunque. Vabbè ragazzi, però non mi fate occupare di queste cose. Mi annoio. Mi annoio in maniera... Signor Bertolino! C'è anche il signor, c'è anche il signor Bertolino grande, Enrico Bertolino, grandissimo. Fra poco si siederà con noi, insieme all'onorevole Paola De Micheli, del Partito Democratico, che è la dimostrazione che non è che le belle deputate ci sono solo a destra. A destra. Ci sono anche... Messe lì da? Da signor Berlusconi. Non so. A destra. A destra. Sì. Esistono anche belle deputate che sono messe lì da sole, che sono spine. Sono tante, ne abbiamo incontrate tante e so che anche lei Cruciani ha apprezzato. Beh, no, insomma, apprezzo sempre. Senti che profumo. Vedi, il limite è che la radio non vi fa sentire anche i profumi. Bisognerebbe fare una radio olfattiva, sarebbe una rivoluzione. Sì, signor Bertolino, lei ha sentito il profumo? Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi buonasera. E a tutti gli ascoltatori, ai della radioascoltatori Zanzara. Della Zanzara. Che è una bellissima trasmissione, lo dico. Ovvio, sono qua a posto, ci eravamo messi d'accordo su questo. Grande, ma lo sento questo profumo fantastico. Chant of a Woman. Che profumo è, onorevole De Micheli? Alien. Alien. Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Onorevole, segnalo che mi sento onorata. Finalmente ospite la Zanzara. Persona importante, ha un'agenda fittizia. Bisogna spiegare che ci ascolta. Non è Paola De Micheli, grande lavoratrice, Partito Democratico. È una di quelle deputate ad oggi sconosciute dal grande sistema dei media. Nonostante lei sia una delle donne di riferimento del PD nei grandi rapporti con gli uomini potenti d'Italia. Ci vede il telefonino un attimo? No, che lei ha per esempio il telefono diretto del signor Scaroni. E lei sorride, no? Ma spieghiamo, io ho telefoni diretti di tante persone. Di Marchione, cioè, scusi, Marchione ce l'ha. Al telefono ce l'ha diretto di Marchione. C'è telefonino diretto di Marchione col numero. Scusate, se disturbo vado. No, scusi. Io non ho il telefono neanche del lattaio sotto casa mia. Non hai neanche il mio numero di telefono. Ma so come raggiungerlo. Cioè, scusi, ma lei come ce l'ha scritto sopra? Marchione oppure c'è scritto Sergio? Sergio Marchione. Che come di lei ho scritto Giuseppe Cruciani. Certo. Eh? cose ma da pazzi. No. Signor Bertolino domani farà qui un grande show. No, poi ci... quello che chiamano, quelli che ti vogliono bene, chiamano quando è il tuo spettacolino. È, un bello... è terribile. No, beh, diminutivo simpatico, eh? Però ti massacra. Come dire, quando, dopo la pozione vi arriva la donna cannone, c'è lo spettacolino. È come dire pisellino, no? Esatto, esatto, è mortificante. Però è giusto mortificare il comico, perché è un periodo in cui il comico, se non si mortifica da solo, è giusto che venga ridimensionato, perché è un traduttore di realtà scomodo e noioso. In realtà, alla fine di Vedrò, lui ci dà sempre la linea, per cui... la linea è averla. È il comizio conclusivo. Cioè, questo è un convegno di Highlander, cioè qui non se ne muore nessuno. Tutti gli anni sono qua tutti e tutti gli anni hanno lo stesso mito della classe dirigente che subentrerà nel paese. Non si sono ancora resi conto che gli altri non sono Highlander, ma sono i monoliti dell'isola di Pasqua, cioè non ce n'è uno di quegli altri. Per cui questi pensano che se ne vadano e vedi il monolite che si gira e dice vabbè, fate un altro convegno. D'altra parte hanno aperto il convegno con Palonieri, che non è proprio un giovincello. Sì, cioè, ma però è più giovane di Letta. Se lei lo guarda attentamente, Enrico Letta. Enrico Letta è anziano, sì. Dentro giocava come bocce a 2 anni. Ma lei è ospite di Enrico Letta. Che so, ma ne parlo con amore, però io gli voglio bene per quello. E si figuri, ma gli voglio bene per quello, per questa anzianità. Cioè, uno lo vede e dice vai. A lui nella nuova manovra non gliela tagliano la pensione, gliela danno subito in anticipo. Lo guardo e dico vada pure sereno. Una cosa pazzesca. Borsa, torniamo subito. Via. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono. È la zanzara. E da questo dei piccioni non. Allora, lei deve sapere che il signor Parenzo, fino a quando è entrato dentro questo studio, un anno e mezzo fa, da quando è entrato in questi studi della Zanzara, in questa trasmissione, era conosciuto come un giornalista con un minimo di serietà. Di reputazione. Di reputazione. Sì, un minimo. Adesso un minimo. È finito a cantare chi chi chi co co co. No, chi chi chi cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu. Lei lo sa che, sono Bertolino, che Pippo Franco è abbastanza amico, collaboratore di Scilipoti. Amico di Scilipoti. Amico di Scilipoti, sì. Cioè tra lui e Scilipoti. Ma può esistere un'amicizia con Scilipoti? Che non sia disinteressata. Chiedilo a Parenzo. Eh sì, siamo, abbiamo avuto, avete avuto un feeling. Diversi momenti di incontro. Noi abbiamo un feeling. Io sono così per questo. Cioè da quando conosco Scilipoti sono così. Chiedo, sapete, Scilipoti fa sempre il baciamano alle donne. Anche lei? In anche Parlamento. Lei. Ma lei come uomo, le piace Scilipoti ad esempio? No. Abbiate pietà di me. No, non lo so. Pensavo mi stimasse. Molto. Certo, la chi è il più bello del Parlamento? Ecco. Chi è il più bello del Parlamento? Beh, Boccia. No, vabbè, Boccia. Quello già, siamo della destra, vedi che uno del centro-destra. No, beh, secondo me è molto carino Fitto. Ah, Fitto. Poi sì. C'è questo Costa. Ma lei, adesso non dico niente. Chi è Fitto? Costa? Fitto, un bel viso, Fitto un bel viso. Fitto un bel viso. Un bel viso. Ma è un concorso o è un Parlamento? Onorevole De Micheli. Io sapevo che dovevo stare allo scherzo. Dovevo stare allo scherzo. Perché altrimenti Scilipoti, che cosa le fa venire in mente? Bertolino. Se dove non è che è così creativo rispetto a noi. La cosa che mi colpisce di lui è che parla in terza persona di sé. Questa è una cosa che mi piace. Cioè, lo Scilipoti fa questo, è come se fosse una doppia personalità che si scinde improvvisamente. Infatti, una è rimasta sui banchi di una parte, l'altra è passata dagli altri banchi. Qui non sai più dove si trova. Ci sono due Scilipoti che girano in effetti. Questa è la ragione. Sì, è per questo che lui parla di maestà. Sì, lui si è smaterializzato come Spock nello smaterializzatore. In una parte è apparsa nell'altro partito. Ma non è un problema, nel senso. La cosa che mi inquieta molto è che sono i sogni di Di Pietro, che lo vedo ogni tanto, perché dice ma come era qua? Cosa ci faceva innanzitutto? Perché? No, però sono personaggi che secondo me danno anche un colore, un giusto colore a un certo tipo di Parlamento. Cioè a me il paragone col Giappone che mi inquieta. Dovevi esserci il 14 di dicembre per vedere il colore, scusa, cioè? Ma per me di colore non ce n'è più. Il giorno della salvezza. No, il Giappone mi piace perché questo che si è dimesso, cioè, si dimette, si inchina, se ne va, chiede scusa. È una cosa imbarazzante. Cioè, quello è inquietante. Non sale neanche un coro di scemo. Cioè, le persone hanno una morale tale che dicono no, ho sbagliato, me ne vado, devo pagare io. Qui non succede mai. Cioè, qui al limite ho sbagliato, vabbè, gruppo misto. Ho sbagliato? No, vabbè, è colpa di un altro. Responsabili, dai. Che poi i responsabili hanno doppio... Lo sa, sono diventati PT, no? Popolo e territorio. Le piace il nome di questo partito? PT. Partito Trabagliadores, pensavo che fosse... No. Quello è quello di Lula. Quello partito di... Trabagliadores. Popolo e territorio. PT, sì. Come Poste e Telegrafi. No? Sì. Vecchio Poste e Telegrafi. Non le fa neanche ridere, questo è il problema. PT. Mi commuove. PT. Scusate. Allora, 800 24 0024. Sentiamo qualche insulto di qualche De Micheli ci rivelerà il numero di telefono del signor Marchiò. Quando è che ha sentito? Mi faccio vedere il telefono. No, il telefono è spento, forse l'ho lasciato anche in camera. Ma quando l'ha sentito l'ultima volta? Ma no, non l'ho sentito, no, scherzavo. Non ho il numero di nessuno. Ma ragazzi, io sono una brava ragazza, una lavoratrice, ok? A Piacenza si dice una rasduraina. Una? Rasduraina, direbbe Bersani. Una che lavora, che si impegna, faccio le mie cose, non ho amicizie importanti, ogni tanto dico cose intelligenti e qualcuno si accorge che esisto. Ecco, così è stato deputata un po' Piacentina, deputata Piacentina, molto vicina, diciamo, alla a Rigoletta per forza, e che tessitrice di grandi rapporti nel mondo dell'economia in Italia. Io la conosco da un bel po' di tempo. Insieme è molto a Confalonieri condivide la passione per la musica, no? O sbaglio? No, non gliene frega niente. In realtà abbiamo ci siamo conosciuti perché Mediaset è lo sponsor del Festival Verdi di Parma, sì. E io ero dentro a un gruppo di parlamentari bipartisan che stava costruendo una proposta di legge per festeggiare il bicentenario e quindi loro avevano alcune idee. Cioè, abbiamo avuto un confronto quando ci siamo confrontati la prima volta, poi insomma c'è stato così ci siamo conosciuti, ecco, tutto qua. Scusi, il problema della legge è che l'abbiamo pure fatta addirittura. Si è messo di mezzo Galan, il ministro. Le voglio chiedere una cosa: un dramma. Mi scusi un attimo, ma questo segretario, per la vicenda Penati, non è un po' azzoppato sto Bersani? Dica la verità. No, allora, innanzitutto, sicuramente una faccio la dichiarazione dei posso, politici. Devo dire una cosa, posso parlare seriamente? Però non mi faccio il pippotto politico. Non è adatta a fare il pippone politico. Io conosco Bersani da quando ho 19 anni, no? Ne faccio 38 domani live. Lui ne aveva già l'età. Lui era già presidente della regione, 42, 43. No, non ho dubbi sulla sua serietà. So che in questo momento ci vuole un coraggio, che quando ci sono dei rapporti anche umani è un coraggio faticoso. Ma cioè, insomma, quando tu conosci una persona, sembra il titolo di una canzone, ci vuole coraggio. No, è un coraggio faticoso, ci vuole un bel figlio. Cioè, ma non è un po' azzoppato da queste vicende? Sul piano politico? Sul piano politico. Ma secondo me è più una questione interna, nel senso che qualcuno la usa sul piano interno per recuperare posizioni e spazi. A lei Penati cosa ispira? La vicenda Penati, signor Bertolino? Scusate, in Italia secondo me lo sanno tutti che Pierluigi Bersani, cioè, può avere altri difetti, può aver preso delle posizioni che non piacciono a tutto il popolo di centrosinistra, ma la gente penso che abbia abbastanza chiaro che è una persona assolutamente trasparente e onesta. Sotto questo punto di vista. Sì. Ma non è mica in causa. Cioè, è più un problema interno, secondo me. È un politico che riguarda il fatto che Penati era il principale era il capo della segreteria, insomma, Insomma diciamo la verità. Ma chi deve fare il capo della segreteria? Signor Bertolino, Penati la ispira, la vicenda Penati, come comico, creativo, come città lì si entra un po' nella tristezza, cioè, si vede, perché poi vedi, cioè, mi ispira un po' di invidia, nel senso, dice guarda che bravo che è riuscito a tessere queste trame pur stando a sinistra, perché di solito sarebbe era una... riuscito, diciamo, sarebbe se non fosse successo. Però io quello che contesto alla sinistra è che non riuscire a far bene neanche gli scandali, e bisogna farli bene gli scandali. Cioè, quando una trota del vecchio generale speciale parte dal sud e arriva su in Trentino, la trota si chiede, cioè la sogliola si chiede che cosa ci faccia in Trentino e con l'aereo. E Spigola era, una Spigola, bravo. Sì. Una che Spigola. Ora è senatore, credo, speciale. Ma va benissimo, il cognome così. No, è deputato. Allora, lo scandalo se si fa bene, si fa con gnocche, champagne, si fa con le cose giuste, si fa su. Cioè, non capisco. Se no è inutile. Se a sinistra facciamo il del Bono con questa poverina che aveva neanche i soldi per un botox fatto bene, cioè mezzo labbro. L'ex sindaco di Bologna, esatto. Poi, invece anche qua, se fai uno scandalo devi farlo bene, cioè devi trovare le Minetti di turno, cioè, devi trovare una situazione dove ci siamo di basso profilo anche negli scandali, allora, o ci si evolve o non li si fa più, perché il concetto quello lì. O ci si fanno bene o non si fanno. Scusi, il caso che dà, fino a questo, questo cosa li ispira? Lei ha studiato molto io, questo, domani presenterà. Domani voglio far vedere una clip ma il titolo dell'intervento sarà Infocaos, cioè il casino dell'informazione, cioè, ad esempio fare un confronto tra il Vale Tudo, che è una lotta brasiliana dove si può picchiarsi a morsi, l'unica cosa non si può fare tutto tranne colpire l'inguine, questa lotta brasiliana se la autorizzassero nel PDL. Nell'informazione invece pare che sia importante colpire l'inguine, il resto non conta. Conseguentemente l'idea del Vale Tudo mi ha ispirato anche il concetto che poi arrivi a un certo punto e non sai più chi vede un telegiornale. giornale è sconvolto, perché la mattina lo vede in un modo, il pomeriggio in un altro, e ne si cambia un canale. E su Gheddafi la vicenda è tutto questo. Che è successo su Gheddafi? Faccia il punto. Questo grande, ma io faccio parto dall'origine di Villa Pamphili, questo Franco Franchi del deserto che è arrivato qua con questi occhiali che neanche più venditi mette, cioè viene qua, sì, viene, porta le amazzoni, fa quella carosello berbero in cui i carabinieri si sono vergognati di cavalcare a fianco questi qua che urlavano, e tutti sono rimasti sconvolti. Scaroni stesso oggi è stato citato che ha detto: io questa pagliacciata non ci vado. E alla fine il circo era completo, mancava solo Moira con gli elefanti, c'era tutto, c'era il tendone, e poi i pagliacci, quelli c'erano già, sono entrati uno alla volta o sequiare. Il primo chi era? Il primo pagliacci? No, ma i pagliacci sono stati tutti, dai, cioè non sono tanto, perché poi io voglio domani mettere a confronto questi clip di persone che hanno fatto questo ossequio e dopo cosa hanno fatto. Dopo cosa è successo? Dopo al tribunale lo vogliono al tribunale penale internazionale. Però questo parallelo lo faccio. Anzi, anche prima gli hanno mandati missili. Bersani penati. No. Sì, cioè? Perché va fatto, ma non per essere qui, la trasversalità di Vedrò è nota. Certo. Per cui è giusto osservare la realtà. Con Bersani penati all'inizio tutti, ma no, perché bisogna qua attenzione, perché lui poi dice deve dimettersi, fuori, sparire dal partito, processarsi da solo, anzi se fa qualcosa di più è meglio. E allora con Gheddafi abbiamo avuto la stessa cosa, solo che poi dopo c'è la comunicazione, adesso è a Sirte, domani in Algeria, sembra che abbia una tournée, neanche che stia scappando. Domani dov'è Gheddafi? È a Sirte, vabbè andiamo là, va, tutti i lealisti, ci saranno i lealisti, andiamo anche noi. Per cui è interessante come fenomeno di comunicazione mix, di caos. E tutto questo lo fa lei, invitato a Vedrò al... Sono invitato a fare questo, ma contestualizzato a quello che c'è stato durante questo convegno, cioè parliamo anche del convegno, il controcanto è mettersi dall'altra parte, cioè quando nella platea parlano, quando parla qualcuno in plenaria, se uno fa un'inquadratura dall'alto è un florilegio di telefonini, di iPad accesi, cioè, l'importante è esserci, sembra che a volte ci sia un gruppo di tessere presenti come un po' essere Vedrò, quelli attenti sono quelli intorno a Ricoletta che ogni tanto guarda e se non sei attento segna un nome, fa una crocetta e l'anno dopo sei in ultima fila, oppure sei ai servizi sociali, perché ci sono anche qua. Chi sono? Chi è qui ai servizi sociali? Sono il recupero di quelli che vengono fuori dalla puntata di Piroso. No, Piroso ha fatto una cosa coraggiosa oggi, molto, vabbè, molto, vabbè. Enrico da Brescia, questa è la Zanzara, 800 24 00. Enrico Bertolino? Non è Enrico Letta, no, Enrico da Brescia, un ascoltatore. Che ci interessa molto ascoltare per capire quello che dice. Enrico, dica. Chiamato, passavo davanti alla casa della Marcegaglia, ho visto i lampadari di cristallo acceso, ci passo spesso e volte. Adesso. Lampadari di cristallo non è un reato. Ma lo sto dicendo perché mi piace guardare nelle case la sera, cioè pensare. No, io non ho nessun pregiudizio, ma scherziamo. Non sono mica senso, le piace guardare dentro le case degli altri. Scusi, in che zona si trova lei? Io adesso, anche se sono di Brescia, mi trovo sul Mantovano. Io invece sono mi dica anche la zona dove, perché voi che vuoi mandare la uno che guarda nelle case degli altri. No. Cioè lei, scusi, lei mi sta dicendo, ero davanti alla casa della Marcegaglia, passavo per strada, cioè con la macchina passavo per strada passando, casualmente in collegamento con la 24, e ho notato i lampadari di cristallo acceso. Ci passa sempre, benissimo. Mi piace guardare le case. Le piace fare il piccanazzo, insomma. Le piace guardare le case, cioè detta così. Guardare le case degli altri. Vabbè, è una bella casa. Com'è la casa della signora Marcegaglia? Una casa. Penso che una parte della ristrutturazione fosse stata seguita dall'architetto Spadolini, che era, penso, il fratello. Adesso questo. Architetto Spadolini, lei sa tutto, Enrico. Comunque, mi dica. Ma guardate, io che ascoltatori ci chiamo, sono davanti alla casa Marcegaglia, è spettacolare. Sono un po' radicale nella considerazione di quello che è l'Italia oggi, tutti si scaraventano contro i politici, allora? Che i politici sono... stiamo godendo, vivendo, secondo me, un eccesso di democrazia degenerata. Forse ha ragione Parenzo, però un eccesso di democrazia degenerata. No, non si può fare nulla, non si può fare nulla. Eccesso di democrazia degenerata. Ci sono auto in zona? Ci sono auto in zona, per cortesia? La situazione è grave. Adesso chiaramente. Sì, no, ma la zona dove si trova. Ma lei continui pure a parlare, tanto le mandiamo un attimo una macchina. Ma è degenerata, ma vedete che non si può fare nulla. Sta arrivando l'ambulanza per portarla via. Ma come non si può fare nulla? Enrico, che significa non si può fare nulla? Mi spiega. Senti l'ambulanza? Aspetta. Non si possono fare misure correttive, non si possono fare leggi, non si può fare la TAC, non si può fare i gasificatori. Tutti, ci sono mille. Questo non è d'ambulanza. Fermate le ambulanze un attimo. Lei sta dicendo che in Italia non si può toccare niente. Nessun interesse. Lei dice l'eccesso di democrazia degenerata perché c'è troppa. ma diciamo, è un paese, ci si oppone a ogni cosa. Ma eccetera, è un paese ingovernabile l'Italia. Il paese ormai, dei no, il famoso paese dei no. Il famoso paese dei no. Senta, Bertolino, sa che Berlusconi sta facendo questa dieta, no? Questa dieta tisanoreica. Grazie. Tisanoreica. Si chiama così, dieta tisanoreica. A base di tisane. Tisane. Speriamo che funzioni. Chissà com'è nervoso. Mi hanno raccontato che davanti, praticamente davanti a ogni ben di Dio, ha una forza di volontà. Di volontà pazzesca. Questo l'ha dimostrato comunque, anche nel tempo si è sempre trattenuto molto. Sì anche nel, come dopo, cioè, dopo Capodanno c'è sempre da fare un momento di dieta, no? Cioè, finisci, dici adesso comincio, fai due settimane, poi dopo riparti, cioè, come la palestra, come l'inglese, no? Cioè, adesso comunque... ti fai degli obiettivi e... anche le feste sembra che per un certo periodo l'abbia interrotte, poi anche perché con le tisane alle feste non esatto. Scusate, ma però, si fa una festa con le tisane, imbarazzante. Se a dieta è un motivo in più per stargli alla larga, comunque. Cioè? Oltre nervoso. A tutti gli altri motivi che ci sono. Ah, perché è nervoso, dice. Cioè, ha mai fatto una dieta? Lei l'ha fatta? È una vita. Sì. E beh, insomma, siamo leggermente nervosi, no? Però, signor De Michele, è la dimostrazione che stressato belle, da non Bossi, sono, non sono stressato solo da dieta. Allora, andate a vedere su Google l'onorevole De Michele. Ma non la potete mai vedere come stasera. No, vedere che è una bella deputata, no, perché questa vulgata per cui le belle donne sono bella, solo a destra, sana deputata di una sinistra. Bella sana deputata di sinistra, una ragazza di campagna. Ci parli un po' di Piacentina. Ma ieri sera tra l'altro l'ho vista ballare scatenata. Hai un po' bevuto, no? No, un bicchiere traffico di vino. Torniamo per gli ultimi 10 minuti della zanzara di stasera. Peccato, però potremmo chiedere di prolungare forse 800 24 00 24, no, per carità. Sono fatte così. Facevo un parenzo diverso. È sempre lo stesso, però mi piace molto questa cosa di questo liaison tra la regia di Milano. Può mandare in onda l'ultimo litigio tra Parenzo e Scilipoti? No, ma questo la prima di cena, no. Scilipoti prima di cena, vabbè. Però è facile attaccare Scilipoti, come. Avete visto la progressione delle fotografie con i colori che ha assunto nel tempo, i capelli, le sopracciglia? Provate a farlo questo gioco qua. Non potrebbe proprio innamorarsi di Giorgio Scilipoti. Ma perché? Parenzo. Non so, chiedo scusa. Parenzo. Gioco della torre, onorevole De Michele. Sì. Sulla stessa torre ci sono Marchion, il suo amico Marchion. Non è un mio amico, no, l'ho conosciuto. Non è un reato, è uno dei più grandi manager di questo momento. No, ma Marchion e la signora Camusso. Chi butta giù dalla torre? Mi dica la verità, nient'altro che la verità. Susanna Camusso la salvo sempre, per due ragioni. Dunque, butta giù Marchion. Sì. Butta giù Marchion. Per due ragioni salvo Susanna Camusso. La prima è l'accordo del 28 giugno, che mi ha dato una grande speranza, anche se adesso è stato rimesso l'accordo tra le parti sociali, quello che poi il governo ha cercato di demolire con questa manovra. E secondo, perché è una donna coraggiosa in mezzo a un branco di leoni. La dobbiamo sostenere, anche se io l'ho criticata recentemente perché ho firmato la lettera nella quale le chiedo di posticipare, di aspettare a fare lo sciopero. Scendere dalle scale. Però glielo diciamo, noi gliel'abbiamo detto per dirle: guarda che Susanna, se devi fare delle battaglie, noi ci siamo, i giovani del PD, quarantenni, noi ci siamo. I giovani, ma io sono giovane. Vabbè, questo PD c'ha sempre la stessa età, cioè non è che passano gli io anni. Sono appena arrivato, Enrico. No, dico, abbi pietà di me. C'ha 38 anni, onorevole De Michele. Allora, qui c'è una cura che avete, voi avete trovato un'erba in Ecuador, cosa c'è? Che siete sempre tutti giovani, porca miseria. Invecchiamo tutti quanti. Ma perché tu ti tari su Enrico che ha cominciato presto, sull'altro Enrico, su Letta che ha cominciato un po' presto lui. C'è Scilipoti? No, non c'è Scilipoti. Però Marchionne sa... Scilipoti versus Parenzo. Primo round. Popolo e territorio. Chi se l'ha inventata questa? Chi è venuto in mente? E non era meglio responsabili? Ormai vi chiamavate così. Era un po' sputtanata come cosa, però... No, dottore, non era sputtanata e non è sputtanata perché io faccio il segretario nazionale del Movimento di Responsabilità. No, quella è un'altra cosa, il Movimento di Responsabilità. Il segretario nazionale. Vabbè, dai, Parenzo, mamma mia. Sorry. In questi giorni, cioè, effettivamente lui ha sempre difficoltà, poverino. Il sole in questi giorni, il caldo l'ha messo in grande difficoltà. Non capisco come continua ad essere là accanto a lei. Con tanti galli che cantano. troppe galline. Se non ci fosse stato questo movimento di responsabilità nazionale, il primo Tuparezzo, che non capisce niente di economia e di finanza, saresti stato tu e la tua famiglia in mezzo alla strada. Beh, adesso invece no. grazie a questo movimento di responsabilità nazionale, il 14 di dicembre Scilipoti ha fatto quello che oggi, ieri e domani dice, ha detto il Presidente della Repubblica. Stai zitto e ascolta, mediocre. Canta, non ci casca mai. Fammi parlare un attimino serio con il dottor Cruciani, persona per bene, è giornalista vero e non è giornalista falso come te. Scilipoti ha ucciso Cruciani in due stai minuti. Zitto! Cioè, hai zitto! La carriera di Cruciani, cretino! Stai zitto! Non parlare! Continua a fare lo scimunito nel vero senso della parola, ma nel termine dialettale proprio tipico siciliano. Cioè, che vuol dire scimunito? Detto in termini siciliani. Che vuol dire scimunito? Perché è un scimunito in termini dialettali siciliani. Che vuol dire? Uno che ha avuto qualche difficoltà, non solo da piccolo, ma anche da adulto, al sistema nervoso centrale. Allora è rimasto toccato e conseguenzialmente non può e non riesce a distinguere le cose serie dalle banalità. Allora, però, e siccome è un banale, concludo, siccome è un banale come tanti altri in Italia che sanno soltanto parlare e non concretizzare niente, ma fanno soltanto chiacchiere. Tutti i buchi che può, e il gatto non va dove il pesce non c'è. Siccome io sono un democratico e sono anche segretario del movimento di responsabilità nazionale, ho rispetto anche per i mediocri e per coloro i quali hanno dei deficit mentali. Stasera credo che non ci siano le condizioni con un elemento del genere di poter continuare. Ma non ha detto niente. Veramente un attimo, sono mortificato. Sono con lei, ma stasera io continuando la trasmissione con un Parenzo che non è Parenzo, non ma che più, si comporta come un demente, non riesco ad andare avanti. Prostro, grazie e buonanotte, a risentirvi. Ed è finita così, chissà se ci sarà un'altra puntata, poi c'è stata una puntata il giorno dopo. Però insomma, voglio dire, no, Bertolino, se non ci fosse Scilipoti... Bisognerebbe inventarsi. Però poi punire l'inventore, se veramente... Sì, beh, è un approccio che gli inglesi chiamano in termini di comunicazione FLB, the face like a bottom. La faccio come ed è un approccio che in bisogna... In inglese però suona meglio, com'è? Face ma lei, like bottom. Face like bottom. Sì, che è diverso dal CMB, che è il cover my behind. Cioè, che quando mi giustifico e sono in colpa. Cioè, si approcciano questi due modelli. Ma secondo lei ci è o ci fa? Perché sempre quello, cioè, ormai ci gioca un po'. Secondo me ci fa, ma è ci fa bene. Perché nel senso bisogna, quando interpreti un ruolo, la maschera non la puoi togliere a metà teatro. Lo insegnavano i greci, la persona tragica a teatro. Il teatro comico nasce dall'ape che punge l'attore di persona tragica, che toglie la maschera e la insegue. È il teatro comico. Per cui in effetti secondo me non ci fa molto. No, c'è proprio. Se ci è, e in ogni caso. Che lui sia convinto di essere uno stratega sul piano finanziario. Cioè, per esempio, abbiamo le prove. Ci ha mai discusso di economia con Sio Scilipoti, Andrea De Michele, ad esempio? Ho sentito alcuni suoi interventi, anche molto appassionati. Cioè, il dramma, infatti, di tutta questa conversazione che abbiamo appena sentito, che lui è convintissimo. Però, cioè, io non sono convinta che reciti, scusa. Ha preso per come l'ho visto io. Come la Zanzara è stata monopolizzata, abbiamo pronunciato più Scilipoti di Berlusconi e Bersani. Berlusconi, questo è importante. Berlusconi... Non fa più ridere ormai Berlusconi. No. Non fa più ridere ancora. In effetti no. Ma anche la satira secondo me si deve spostare un attimo da questo modello, perché poi diventa un attacco, cioè diventa fine a se stesso, si vanno sulle idee meglio, se no diventa parodia. La parodia quando la fai aiuta chi la fa, e la satira invece deve andare un po' a lavorare un po' più a fondo, e lì c'è poco, poi anche con le tisane non tiene. Bravo Berlusconi che fa la dieta tisano, lei che non si può sentire, cioè, no, oggettivamente, ma ecco, ma è come se Schwarzenegger mi mangia i crauti bolliti o i broccoli. E perché, che male c'è a mangiare la dieta tisano lei con l'acupuntura, anche l'acupuntura di Scilipoti è una cosa pazzesca. La tu lo immagini, cioè, Scilipoti gli fa l'acupuntura per l'hai introdotto all'acupuntura. L'hai introdotto l'acupuntura. Queste sono notizie fondamentali, signor Bertolino. Notizie fondamentali della vita. Cambiano le borse, cambiano le borse. Intanto anche Serena Dandini ha un passo dalla 7. Notizie anche lei. Bene, essendo diciamo uno dei collaboratori di questa importante emittente, ne sono... Bene, cioè, bene. Avete un posto lì, cioè, nel senso... chiedo perché... Se no, lei chiede lavoro a me, ma io sono un umile operaio. No, io butto lì, nel senso... Vado a fare perché lei che fa adesso? L'isobara nel metodo della TV svizzera. L'isobara del metodo della TV svizzera. Passo dietro... Facciamo un bel un programma alla Rai, lei, no? Eh sì, però è finito. E non l'hanno più... No, beh, diciamolo sinceramente, è finito per cause naturali, nel senso che ha avuto 10 edizioni, 5 anni, 107 puntate, basta, era un attimo, sì, da, sì, fermare. Sì. Poi dopo, già che l'hanno fermato, hanno detto teniamolo fermo. Già che fermo. E quindi lei adesso che se mi dice nelle interviste, quindi lei, no, no, che progetti i progetti ha, ci sono tanti, è che li ho io, nel senso... solo lei li ha. No, faccio tournée teatrali, vado in giro, faccio il mio lavoro e mi preparo, perché poi prima o poi... fai come gli allenatori di calcio, ti metti in tribuna, prima o poi qualcuno... Quando vedi che un allenatore va a vedere tre volte la stessa partita, cioè quello in panchina comincia a friggere. E poi vengo la Zanzara, non avete ancora saputo. No, il posto di Parenzo sarà comandato da Scilipoti. Beh, sarebbe fantastico. Questo numero, mi dica, Cruciani. Il numero di Marchionne. No, perché gli fai il numero di... Perché lei ce l'ha il numero. Ma è un 335, lei c'ha il numero svizzero. Cruciani, che piace alle donne. La tocca anche. Tocca la De Micheli! Un braccio, state tranquilli, no, perché sì, se c'è mio fidanzato. Eh no, casa, appunto, certo. Sì. Salutiamo. Come si chiama il fidanzato? Giacomo. Ciao Giacomo. Matrimonio, niente, siamo amici. Molto probabile, altamente probabile. Con lui? Con Giacomo? Sì. No, chiedo, magari, com'è la situazione qui? Spegno. La grande famiglia allargata di Vetro. Niente, Giacomo è di Piacenza e noi non ci conosciamo. Lì è una cosa fuori da... Fa politica anche Giacomo? No, Giacomo. No. Vota PD, Giacomo, almeno. Speriamo. Speriamo. Dice di sì, diciamo. Anche mi diventerà se... mica come... Senta, il marito della Taccia. Cosa le ispira la signora Minetti? Come... Signor Bertolino, cosa le ispira la signora Minetti? Quando la vede? Sesso selvaggio, cioè una cosa... Mio fratello dice così. Basta, voglio chiudere così. Ma scusate, non sta lì a ragionare anche, cioè, mio fratello dice così, ma anche il fratello della cosa respira, sì, un sesso selvaggio. Complimenti, peraltro. Complimenti. Anche per lo scuola di averla scelta, di, no, era, tutti di averla fatta diventare consigliere regionale. E anche fatta diventare così morfologicamente. Cioè. È ovvio che non è una morfologia naturale. Chi l'ha detto? Invidia, che è evidente. Ma che invidia? Io, per l'amor di Dio, come giravamo su questo? La De Micheli mai. Chiamate il tenero Giacomo subito, che vi rimanda all'ultima pagina. A domani, 18:30. Grazie, Enrico Bertolino. Grazie Paola De Micheli. Grazie. Parentesi PD, chiusa parentesi. Esatto. Perennemente deluso. Perennemente deluso. Partito, partito divertente. Purtroppo da lei. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire! Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.